io sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu hai curato il becchino da parenzo, te. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Nel nostro primo consiglio dei ministri delibereremo come risarcimento per una imposizione sbagliata e ingiusta dello Stato la restituzione dell'IMU sulla prima casa pagata dai cittadini nel 2012. La restituzione potrà avvenire attraverso un rimborso vero e proprio sul conto corrente, oppure in particolare per i pensionati o per chi preferirà questa modalità, in contanti attraverso gli sportelli delle poste. E alla parola contanti, caro Parenzo, ho capito che ancora una volta l'agenda l'ha detta lui. L'agenda l'ha detta lui con questi fuochi d'artificio. Alla fine tutti vanno dietro e si parla solo di IMU, esattamente come vuole Berlusconi. In contanti! Poi a un certo punto questa mattina l'aria che tira dice anche... Beh, con internet si fa in 10 minuti, con un bonifico, oppure in posta. Cioè uno dovrebbe andare alla posta e farsi rimborsare fino, credo, a 400 euro l'IMU precedentemente pagata in contanti. Tu immagini le file, no? Delle file pazzesche davanti alla posta, con la gente che cerca di farsi rimborsare l'IMU. No, io 100, 200, datemi contanti. Sì, ladri, immagino già, i ladri la fuori, no? I ladri fuori, appostati. Transenne, polizia, tutti code, città bloccate per la restituzione dell'IMU, paese delle favole, come ha scritto Ricolfi sulla stampa. Vabbè, non c'è bisogno che ci dia, aspetta, va bene, c'è la tempo, propaganda, c'è tempo, c'è tempo. Sempre, lei dice sempre, signor Circuciani, c'è tempo e poi non mi fa mai argomentare. No, ma c'è tempo per le sue smargiassate. Paese delle favole non mi sembra una... Comizi. Sì, ma non i comizi. No, ma perché il concetto è questo, io posso anche dire. Mettetemi quello, per favore. Ecco, bravo, stai zitto. Andiamo con Berlusconi in posta o in bonifico. E le poste hanno a disposizione i contanti sufficienti per poter pagare chi si presenterà. Ma lei da, con una da quanto tempo non va in un ufficio postale a fare un bonifico, a pagare una bolletta elettrica? Io immagino se, che lei. E se lei non vuole andare, se lei non vuole andare in un ufficio postale, trasmette al tesoro in gli un estremi mese, in Liban. Beh, in un mese, scusi, ci vuole 30 minuti per fare tutto, 3 minuti per fare tutto con il computer, con internet. Trasmette i suoi estremi bancari Liban al tesoro e il tesoro le fa il bonifico in 10 minuti. Ma non si è capito bene chi fa il bonifico da qualche parte, però questi soldi devono arrivare, cioè non è che ce l'hanno le poste, cioè è sempre lo Stato che deve pagare, insomma, la cosa. No, ma non solo. È una cosa. Scusami, ma c'è tempo, c'è tempo. Giannino, sentite Giannino su Berlusconi. Quello di Berlusconi, come vede, è un tentativo che riesce. Parliamo solo di lui. Mi faccio un'altra domanda. Eh? Come mi faccio un'altra domanda? È stato troppo sintetico. Eh no, non parlo di Berlusconi. Cioè, io allora parliamo della sua proposta. 18 anni fa e dice, abbia pazienza. Siccome una donna che gli tradisce dopo 18 anni, la butti via. non mi metto a parlare di lei. Ma ci sono degli amori patologici. Non mi interessa, lei lo sa, no. In questo caso conosco il mio mestiere. Il mio mestiere è fare le domande che lei mi ha fatto. Allora io ne faccio un altro, quindi io dico: è un buffone, non ne parlo. Ecco, l'abbiamo licenziato così. Ovviamente oggi si sono sprecate in questo fine settimana Berlusconi come Vanna Marchi, Berlusconi come il Mago Telma, e poi c'è stato Monti, Berlusconi compra il voto come Achille Lauro. È meraviglioso, devo dire, non è la prima volta che qualcuno cerca di comprare il voto degli italiani. Un cinquantennio fa, per esempio, Achille Lauro prometteva qualche chilo di pasta o una scarpa di un paio di scarpe. Dolcissimo, ciao. Poi ha parlato anche di tentativo di corruzione, eccetera, eccetera. Però voglio sentire Grillo, cari miei, c'è sempre un Grillo al giorno che deve arrivare, a rendermi più felice la giornata. Beh, nel weekend la sparata grossa su Al-Qaeda. È stato attaccato, ma voleva scherzare, Al-Qaeda, sentiamolo sulle coordinate. Non è che i terroristi hanno bisogno delle coordinate se vogliono sparare su Montecitorio. Su, siamo seri, dai. Io voglio dire a tutti gli amici musulmani che non me ne frega niente. Io non sono con i francesi, non l'ho deciso io. Non l'abbiamo deciso. Se proprio volete bombardare o mandare qualche missile, allora diamo noi le coordinate al missile. Diamo noi le coordinate. E le coordinate giuste sono 41 gradi. 54 primi latitudine nord, 12 gradi 28 primi longitudine est, è leggermente più giù di Bologna, è una cittadina carina, Roma, il punto è chirurgico, il vuoto di Newton, il Parlamento italiano. Parleremo più avanti della figuraccia di Paolo Berlusconi, prima della partita del Milan ha chiamato Negretto, il negretto di famiglia Balotelli, negretto di famiglia Paolo Berlusconi, attorniato da persone. Buon sangue non mente. È inquadrato, ma Berlusconi non so se lo direbbe una cosa del genere. Beh, ha detto abbronzato Obama, quindi figurati. Eppure quello è vero. 800 24 00 24, ma abbiamo con noi, caro Parenzo, ti ho fatto un regalo questa sera, ti ho fatto un grande regalo. Io voglio parlare solo con premi Nobel stasera, o dell'economia o della Dario cultura. Dario Fo, buonasera. Salute. Come va? Mi piace sentirvi allegri, veramente spassosi. In questo cataclisma, caro Fo, che dobbiamo fare? Se non si ride, si piange. Esatto, ma tra l'altro Grillo in questo fine settimana l'ha pure candidato a Presidente della Repubblica. Ehi! Senza neanche avvertirmi che mi sarei preparato, avrei messo un abito nuovo, sarei uscito a dirlo alla gente per strada, ma invece l'ho saputo per caso, da una radio, sono rimasto perfino male. Ma male perché non l'ha avvertita, dice lei? Sì, perché uno si deve preparare anche come abito, insomma, deve fare qualcosa, dare una festa, anche... So, niente. Ma lei lo farebbe? Lo farebbe, signor Fo, lo farebbe il Presidente della Repubblica, lei? Ma è una cosa che mi spaventa, che mi terrorizza. Che cosa vado a raccontare? Prima di tutto, per essere a livello della comicità e dell'ironia, dovrei presentarmi nudo, tutto nudo. Così sarei veramente nel gioco del il re è nudo e anche chi lo sostituisce in questo caso. Diciamo la verità, bisognerebbe la prima cosa, che cosa farebbe? La prima cosa quando entra al Quirinale, via tutte le spese inutili, ancora ci sono delle spese pazzesche. Sì, ci sono veramente delle cose che sono onomatopeiche, che non hanno nessuna ragione, non sento il suono della logica. Ma è un'utopia oppure veramente, voglio dire, adesso lasciamo perdere lo scherzo, ma se qualcuno pensasse a lei che cosa risponderebbe a questa persona? Sei pazzo oppure sarebbe onorato? No, sono onorato da una parte, terrorizzato dall'altra e incredulo naturalmente. Con un minimo di misura bisogna averlo. Ma lo farebbe meglio di Napolitano, secondo lei? No. Ma Napolitano ha fatto delle cose notevoli, a parte questa ultima di aver bastito e scelto certi personaggi che poi si sono rivelati Monti. Almeno meno da dire, insomma. Monti, dice lei, Monti. Sì, Monti. Monti è stata una delusione terribile. Speravo veramente che questa sua forma, questo suo modo, questa concezione dell'eleganza del fosse reale, e soprattutto che avesse un senso di equità, come si dice. Invece è andato giù da una parte sola, insomma. Senta, ma al di là di tutto, siccome insomma non è realistico che lei faccia il Presidente della Repubblica, nonostante quello che dice Grillo, a meno che Grillo non prenda il 50%, chi è che vede bene al Quirinale lei? Beh, non so. Chi le piacerebbe? È un pensiero che non ho fatto, anche perché purtroppo chi decide sono i partiti, e in questo momento sono in una tale, diciamo, confusione, per dire una parola leggera, che c'è da aspettarsi di tutto, insomma. C'è da aspettarsi che facciano sempre il loro passo sbagliato al tempo sbagliato. Dice Parenzo, ma Prodi le piacerebbe? Prodi. oppure non ho capito. Prodi le piacerebbe? Prodi è una persona che ancora ho stimato e stimo, purtroppo non ha avuto il coraggio. Adesso non sto, stiamo a parlare tutta la storia di Prodi, che non interessa in questo momento. Certo. Allora, Dario Fo, tra l'altro, ha scritto un libro, Il Grillo canta sempre al tramonto, per Chiare Lettere, in cui sostanzialmente intervista Grillo Casaleggio, è in uscita l'11 febbraio. Abbiamo il traffico, torniamo subito. Ma lei è ancora convinto, come ci disse per la prima volta qui a noi, di votare Grillo il 24-25 febbraio? Ma io sono tentato fortemente, anche perché mi guardo intorno, ci sono questi clown che vanno e vengono, che realizzano, che lo fanno in modo dilettantistico, finalmente un vero clown, insomma. Finalmente. Però è tentato, che lo fa di mestiere. Alla fine lo vota, insomma, diciamo la verità. Sì. Scusate, ma Casaleggio, lei che l'ha conosciuto, è più un personaggio misterioso e inquietante oppure un genio? Beh, io ho trovato una persona intelligente, colta, informata. Ma si può dire un genio, uno che ha creato... No, ma un pregio, che pensa e ci ripensa e riesce anche a dire no, ho sbagliato in questa cosa, bisogna rivederla. Cosa che non sembra dall'esterno. Giannino le piace? Adesso sta impazzando a Canale 5. Sì, le piace a Giannino? Spiritoso, parla con una velocità terrificante, purtroppo per me, che loro tutte le volte mi metto a correre verso la televisione, verso... Qualcuno dice che Giannino è una sorta di Grillo di destra, diciamo, molto liberista. No. Sono molto diversificati anche nella posizione del linguaggio, del modo di essere, dell'invenzione. È scatenato, della maschera, ecco, hanno un'altra maschera. La gente applaude adesso Giannino in piedi a Canale 5, cose da pazzi, ha sparato a zero secondo me su Berlusconi e su Limo. Berlusconi in questo momento, chi le pare in questo momento Berlusconi, che promette tutto a tutti? Berlusconi, c'è una cosa che mi è venuta in mente proprio subito, da Chito. C'è Shakespeare che a un certo punto dice: i bugiardi hanno un grave difetto, non si ricordano mai di quello che dicono. È veramente per Berlusconi, lui proprio si dimentica di aver ripetuto, detto, ridetto, giurato sui figli, che poveracci, se gli succede qualche cosa di guai è lui che rimane a scalogna, e soprattutto io credo che finga, è impossibile dimenticarsi. Ho contato l'altro giorno insieme a un amico, ha mentito sullo stesso capitolo, diciamo, la bellezza di 15 volte a distanza di un anno al massimo uno dall'altro. Ma è malato secondo lei da questo punto di vista? No, è sciocco, perché poi succede anche negli addormentati, che sono molti in Italia, che si svegliano e dice: ma mi prende per il culo, scusi, non dovevo dire una cosa. No, come no. Traffico, torniamo subito, Dario Fo. Le zanzare di casa. E siamo qui 800 24 00 24, con Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, David Parenzo in collegamento da non so dove, credo si trovi da Roma. Infatti voglio chiedere subito al maestro Dario perché io avrei detto ingroia, cioè tra le simpatie di Dario, no, sicuramente per carità, per carità. Sì, è vero che ho simpatia per lui. Mi dispiace che ha dovuto fare un'operazione un po' ambigua, un po', un po' grossa, sì. Cioè tirar dentro persone così quasi a caso, e soprattutto fare una specie di ammucchiata, ma io sì. credo che lui sappia tirare bene la volata. Ma non la inquieta un po' un partito fatto solo di magistrati, cui i leader sono solo magistrati, De Magistris, Ingroia, Di Pietro? Sì, ma è tutta una vita che abbiamo magistrati in mezzo che fanno, dissano, però sono, in molti casi sono persone... Sua moglie che voterà, scusi se glielo dico, sua moglie che voterà, so che dovrei chiederlo a lei, ma insomma... Ma credo che siamo lì leader tutti e due abbastanza vicini, ogni tanto discutiamo e non è che prendiamo però colato... Quello che dice Grillo, certo. È follia, c'è da ragionare, però devo dire una cosa, in molti casi ho notato che c'è una malevolenza eccessiva, per cui io sono un uomo che è nato con la satira, sì. ed è cresciuto con la satira e vive ancora di satira. Se, per esempio, i missili contro il Parlamento, quella è una metafora, su, non è una cosa... Certo, è un paradosso talmente evidente, lo capiscono anche i bambini. Poi non è che Al-Qaeda ha bisogno certo punto, quasi così gridare il terrorista, eccetera, mi sembra stupido. Quando dice delle cose che sono eccessive e sballate, lo dico non soltanto, ma lo dico a lui personalmente. Sì. Senta, ma ha visto questo scandalo che coinvolge anche in Lombardia quelli dell'opposizione? Il PD, la Nutella, delle spese anche minime, no? Una cosa... Ah, vabbè, ma quello sono veramente il margine stupido della coscienza delle persone. Vuol dire non avere neanche un senso dell'umorismo, perché uno si dice: ma che cosa sto facendo? Ma cazzo, ma sono soldi della comunità e io li spreco così per delle cricole proprio stupide. No, un minimo di limite, ma quello che di cui dobbiamo indignarsi è tutto l'andamento sul piano delle banche. Ma lo sai Parenzo, che in questo libro spiegano a un certo punto a Dario Fo il porno, cioè c'è Grillo credo, o Casaleggio, che spiegano a Dario Fo il funzionamento di YouPorn, cioè perché io non ne sapevo niente. Oggi c'era un articolo sulla Repubblica piuttosto esteso, sì. E finalmente ho saputo che Grillo andava giù diritto. Io pensavo che fosse un po' paradossale. Lei non sapeva che esistesse un canale che si chiama YouPorn? No, che si arrivasse, no, che si arrivasse attraverso una tecnica, un mestiere, elementi addirittura tecnologici. No, e mi ha un po' inquietato, amareggiato, insomma, perché il sesso ormai non è molto piacevole pensare che la gente si rovescia il cervello a questa maniera. Parenzo, dove sei? Sei scomparso? No, però dico, magari una volta all'epoca di Dario Fo non c'era YouPorn, ma c'erano le ore, c'erano riviste pornografiche, quindi devo dire, sì, è cambiato il mezzo, ma insomma il tema rimane quello, no Dario? Ah, senz'altro, ma visto come macchina, diciamo, organizzata, per cui tu ti metti così a realizzare una specie di contratto attraverso un mezzo meccanico, poi... Ma lei non la legalizzerebbe la prostituzione, Dario Fo? Come se io... Lei non la legalizzerebbe la prostituzione? Ma è già legalizzata, di fatto. Beh, no, cioè non rimetterebbe in piedi i famosi casini o comunque una legalizzazione, le case chiuse. No, perché dietro le case chiuse c'è sempre stata una grande speculazione, la violenza, l'imposizione, il ricatto. Beh, insomma. L'abbiamo letto addirittura nel passato, Nel passato sì, adesso un po' meno. Adesso... Però volevo capire questo. Vabbè, perché ci sono ancora, dice, va bene, ma... No, ma lei quanto ha pagato di IMU, per esempio? Non ne so niente. Nulla? Non so niente, perché non mi posso informare. Ho talmente tante cose a cui pensare, per cui ho deciso che il problema dell'organizzazione, perché il problema ho una persona di cui mi fido e che pensa tutto. Lei non sa nulla, non sa niente. No, ma veramente è una cosa che alcune volte amici dice, ma non puoi essere così assente a quello che è un punto. Ma quante case ha lei, scusi Fo? Io ne ho dunque una dove abito a Milano, un'altra sì. al mare, sì. E poi c'ho una sopra casa mia, un luogo dove vado a lavorare. Sarà arrivata una bella bastonata. Eh sì, sì. una bella bastonata. Vabbè, oh, che dobbiamo fare? Parte, se uno ha le case, paga. Ma sono luoghi dove vado anche a lavorare, insomma. No, certo, certo. Parenzo, che volevi dire? Scusa, non ho capito. No, volevo dire questo. Tra l'altro, Grillo, Dario... Grillo ha proposto Di Pietro come presidente della Repubblica qualche tempo fa. Dico che gioca un po' con queste cose, sì. Dario giustamente non si scandalizza per la buttata di Grillo su Alcheda, sulle coordinate, però tutti noi ci siamo scandalizzati quando Bossi parlava dei fucili, ti ricordi, signor Cruciani, no? Quando parlava di tirar fuori i fucili. Vabbè, ma che c'entra? Allora, perché lui quando parla di queste cose non ha assolutamente né il ritmo né il tempo di una bufala ridanciosa, eh? Cioè lo dice quasi seriamente. È tremendo quando non so chi della Lega aveva detto che voglio riprendere un fucile mitragliatore e accogliere così i disperati che arrivavano per mare su queste Non era comico, diceva. Non era assolutamente comico, né astratto, né meccanico. Sento, un'ultima cosa, poi la lascio. Ma se Berlusconi dovesse riuscire nell'intento di ridare agli italiani i soldi dell'IMU, lei se li riprende però? No, a parte che c'è un vecchio detto lombardo, se mia nonna avesse le ruote sarebbe un tramvai. È una cosa talmente paradossale, chiara, che non può avere nessun successo e nessuna possibilità di essere realizzata, e chi ci crede è proprio uno sciocco, è sempre quello addormentato. Ma quelli che votano Berlusconi oggi che cosa sono? Sono un po' sciocchi. Cioè un po' coglioni, come diceva Berlusconi una volta, eh? O no? E vabbè, anche perché spera, ogni tanto però devo dire, ne incontro parecchi che dicono loro di in prima ero un coglione e ho votato per tanti anni a quello lì, non lo nomino neanche, a quello lì. Grazie, a presto. Shakespeare, che a un certo punto dice: i bugiardi hanno un grave difetto, non si ricordano mai di quello che dicono. Tu non ci crederai, amico Parenzo, caro Parenzo, in collegamento da Roma, ma c'è un signore sardo, un signore, un operaio, un uomo in teoria vicino alle tue idee politiche, una persona, un disoccupato sardo, dunque una persona, l'accoppiata per te è vincente, un disoccupato sardo che si è tatuato il volto del cavaliere sull'avambraccio. No. Perché, dice lui, è stato miracolato da un brutto male, quello di credere alla sinistra. Mi sono tatuato la faccia di Berlusconi sul braccio, e tu devi vedere, vai su internet, vai a vedere che tipo di tatuaggio. Mi sono tatuato la faccia di Berlusconi sul braccio, ci ha salvato dai comunisti. E con questo non posso che dare la linea alla TG3 di Bianca Berlinguer. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Incognite elezioni, il caso Monte dei Paschi di Siena, affossano la borsa, meno 4,5 risale lo spread, il Wall Street Journal, pesano le promesse di Berlusconi, Monti attacca Berlusconi, vuol comprare i voti con i soldi degli italiani, è una forma di corruzione, le sue proposte sono al limite dell'usura. Berlusconi replica, il professore dice stupidaggini, se vinco faccio anche il condono tombale, poi si corregge, il PD da 20 anni imbroglia gli italiani. Sondaggio, per oltre metà degli italiani Berlusconi non potrà restituire l'IMU, coalizioni cala al centro-sinistra e diminuisce il distacco con il centro-destra. Monte dei Paschi, interrogato Mussari che chiede un rinvio, risponderò ma un altro giorno, un altro test conferma, c'era la banda del 5%. Pagati per non lavorare, un'umiliazione, la rabbia è dei 19 operai Fiom di Pomigliano che la Fiat vuole stipendiare senza farli rientrare in fabbrica. A Sanremo, attento ai costi, ma con molti ospiti, insieme a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, hanno scelto me perché ce la spegne in review. Comunicazioni da Arcore. L'ex presidente del Consiglio si è fatto ritrarre con la cagnolina Vittoria, portata alla conferenza milanese dall'ex ministro Michela Vittoria Brambilla. a testimonianza dell'impegno del Cavaliere e dell'intera coalizione di centrodestra nella lotta alla deplorevole fenomeno dell'abbandono e del randagismo degli animali, piaga che trova nel Mezzogiorno situazioni di estrema emergenza. La cagnolina tenuta in braccio da Berlusconi è una meticcia di 2 mesi e mezzo che arriva proprio dalla Sicilia. I volontari delle associazioni animaliste l'hanno trovata nei giorni scorsi con 2 fratellini. Purtroppo un terzo è morto investito sulla statale Carini nei pressi di Palermo. Vittoria, nome che le è stato dato ieri in onore del battagliero ex ministro animalista, diventa così il simbolo di una delle grandi battaglie del centrodestra. Una battaglia che il presidente Berlusconi è fermamente intenzionato a combattere con ogni mezzo. E in quale giornale è stato pubblicato questo articolo, Parenzo? Ma guarda, escludendo diciamo l'Unità, la Repubblica e il Corriere della Sera, diciamo, per non essere completamente tacciato di idiozia, potrei supporre il giornale diretto magistralmente dal marito della signora, dal compagno della signora Sallusti, credo. Esatto, il giornale. Intanto Berlusconi, alla domanda ma quanto costa un chilo di pasta, risponde in questo modo. Arriva, Se lei ha detto che spesso va al supermercato a vedere che aria tira nel paese, lei li conosce un po' i prezzi di generi alimentari italiani? Non così precisamente, ma i prezzi fondamentali. Tipo un chilo di pasta? Un chilo di pasta, un euro e 800. Meno, per fortuna, da 0,49 allo 0,76. Ma io domando più che il prezzo, che cosa? Domando qual è stato il movimento dei prezzi, cioè se c'è stato un aumento del prezzo, eccetera, e questo è quello che è importante. Poi dice che bisogna togliersi il cappello davanti a Scilipoti. Considera anche voti, razzi eccetera. Scilipoti, capaci, appassionati. Scilipoti è una persona davanti a cui togliersi i capelli. Anche lui è un transfo che però ha cambiato bandiera, molta campana. Insieme agli altri. Propone poi il condono tombale, si discute soprattutto di questo, il condono tombale. Poi ha precisato il condono su Equitalia, anche qui siamo nel vago. Comunque il condono tombale. Ma la promessa del condono è una promessa che lei può fare? La promessa del condono, io sarei assolutamente d'accordo nel farla. È sempre stato avversato dalla sinistra in una maniera totale. Sempre. Cioè lei vorrebbe fare il condono tombale a patto che però avesse una maggioranza per farlo? Assolutamente bisogno, se ci fosse la maggioranza io penso che dovremmo farlo. E poi c'è Monti scatenato, addirittura nella serata di oggi Berlusconi e Alfano chiedono le sue dimissioni come senatore a vita perché ha dato a Berlusconi del corruttore, in sostanza compra i voti come Chilo Lauro, un tentativo di corruzione, quello della restituzione dei soldi agli italiani, vuole pagare gli italiani con i soldi degli italiani. E perché si dovrebbe dimettere, non ho capito. Ma che ne so, non si è capito perché si deve dimettere. No, da senatore ma qual è il senso? Perché sarebbe indegno di fare il senatore a vita, capito? D'accordo. Capito? Oh, intanto c'è stata una standing ovation per Giannino, a pomeriggio. Dove, 5, la gente in piedi ad applaudire, dopo pigliamo il pezzo e ve lo mandiamo. Oh, il nostro amico Mascia del Popolo Viola, intervenga all'OSCE, non so che cosa, Berlusconi sull'IMU è tentata corruzione, adesso non esageriamo, su. Berlusconi con le sue dichiarazioni sulla restituzione dell'IMU e sul condono tombale condiziona la campagna elettorale. Se anche Monti ha detto che questa è tentata corruzione e voto di scambio, noi chiediamo l'intervento dell'OSCE. Lo facciamo con un appello che abbiamo pubblicato sul mio sito www.gianfrancomascia.it. L'OSCE, tenete fuori l'OSCE da tutto, vi prego. L'OSCE no. Paolo Berlusconi. Andiamo a vedere adesso il negretto di famiglia, cioè Balotelli, fratello di Berlusconi, sentite. Silvio ha 76 anni, aveva il diritto di cambiare vita, di riposare. Infatti penso che tutti noi ci siamo chiesti, ma chi glielo fa fare? Questo è tutto, sono breve anch'io, adesso andiamo a vedere il negretto della famiglia, la testa manca. Il negretto della famiglia, andiamo a vedere. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Dario da Milano, buonasera Dario. Buonasera, vado? Dica. Senta, finalmente si fa di sentire Renzi, che il primo di febbraio insomma, con Bersani ha fatto il suo comizietto, ha mantenuto la parola data, dice che appoggia la campagna elettorale. Beh, è tutto abbastanza scontato, eh? ha timbrato il cartellino, ma però non funziona, non funziona così Renzi, eh. Cioè se fai il portamicrofono di Bersani, se deve ma fare infatti lui, ma infatti lui non lo fa, se deve fare il portatore d'acqua di Bersani non è così efficace, farà un giretto per l'Italia a dire due banalità come ha detto su Monti e su Berlusconi, ma in realtà lui gufa sotto sotto, gufa per la sconfitta di Bersani, che sarebbe la dimostrazione che invece lui avrebbe vinto a mani basse, dice lei. Esatto, anche perché sta tornando tutto quello che diceva lui. La sinistra non voleva Berlusconi di mezzo, il PD Berlusconi aveva detto che se si fosse presentato Bersani lui non avrebbe partecipato, e facendo così ha fatto una mossa astuta, perché la sinistra non sopporta di farsi dare dei cambi da Berlusconi e quindi ha fatto va tua. Bene, grazie. Graziano dalla Spezia, buonasera, sentiamo come la pensa lei su che cosa. Graziano, su che cosa ci faccia ridere un po', ci faccia ridere un po'. Sul pareggio del Senato, a parte ancora pareggio del Senato, è una tristezza, è una tristezza il pareggio al Senato. Pareggio del Senato. E a proposito di Giannino, lui gli ho sentito dire: ah, spero che io non voglio prendere voti per vincere, ma per far perdere loro. Sì. Così pareggiano tutti, non si governa e praticamente facciamo una grossa coalizione soltanto per andare a cambiare la legge elettorale. Vabbè. A parte che secondo me non lo fanno. Vorrei una sua considerazione. Ma su che cosa? Sul fatto che Giannino ha detto: spero che Berlusconi perda? No, è su. No, non sul fatto che Berlusconi abbia detto Berlusconi perda, se veramente questa volta guardi, tutto è nato, tutto è nato, che non siamo governati. Sì, però tutto nasce dal fatto che Berlusconi ha detto che il voto a Giannino è inutile. Lui ha risposto dicendo che proverebbe un piacere fisico a vedere la sconfitta di Berlusconi. Adesso io sto un po' esagerando, però è così. Vittorio D'Ancona, buonasera Vittorio. Però bella questa cosa che Mediaset ha invitato, spero tu lo faccia sentire in versione integrale, Oscar Giannino nelle sue televisioni, perché voglio dire, questo è la battaglia. Spesso Alfano, no, attacca Giannino, dicono che è un voto perso e poi è buttato via e poi lo invitano a pomeriggio. Ma io non so chi l'abbia deciso, comunque a Barbara D'Urso ha fatto benissimo, poi bisogna vedere se sarà reinvitato poi bisogna vedere, ma guarda che spesso le cose sono molto più in autonomia di quello che uno può immaginare. Magari poi ci sono interventi esterni successivi, No, ma infatti lo dico molto positivamente, che spesso dicono Mediaset schiacciata su Berlusconi, in verità chapeau, si può dire tutto qua. Qui non abbiamo ossessioni, c'è gente ossessionata da alcune persone, noi non siamo ossessionati. Vittorio D'Ancona, no, buonasera, anzi, non dobbiamo dire quello è brutto, quello è sbagliato, quello fa solo cose sbagliate. D'Urso, Barbara, avanti tutta e invita ancora Giannino. Vittorio D'Ancona, buonasera. Pronto, buonasera, pronto, ficchietto lo permetto, no? Vittorio, pronto, dica. Pronto, buonasera, complimenti per la trasmissione, ciao Brucianelli, vai così Parenzo, sei forte. Senti, sono pienamente d'accordo, stimo tantissimo e condivido quello che l'intervento di Dario fu prima. E credo che l'Italia non sia quella rappresentata da Silvio Berlusconi. Penso questo che lo vedremo, un ovviamente. Grande cambiamento in Italia. Lei non voterà per Berlusconi, questa è la sintesi del suo intervento. No, Movimento 5 Stelle è l'unico carta che ci abbiamo da giocare noi italiani. Giuseppe da Bergamo, non è ancora il momento delle dichiarazioni di voto, le faremo più avanti. Giuseppe da Bergamo, dica. Sì, buonasera, buonasera. Vada. No, semplicemente ieri pomeriggio mentre stavo facendo un po' di zapping ho chiamato subito mia moglie e ho detto vieni che c'è la qualunque, e invece no, era ancora Berlusconi con le sue promesse ridicole, e adesso non è più meno tasse più tette, adesso solo tette, accidenti a lui. Manifesto a Savona della destra. La destra di Storace, ti assicuro Parenzo, clandestini, ladri e barboni fuori dai coglioni. Savona e i savonesi. Ma è moderato, diciamo, moderato. Clandestini, ladri e barboni. Si chiama la destra, sì, no. La comunità di Sant'Egidio. No, non si chiama scelta civica con Monti, diciamo. Clandestini, ladri e barboni fuori dai coglioni. Ma cosa hanno firmato fatto? Firmato la destra. Ma io non voglio discutere. Borsa, dei vabbè, non c'è bisogno di commentare. Dai, Borsa. A parte che in alcuni manifesti elettorali qui in Lombardia, sia della Lega che di SEL, credo, della sinistra, di Vendola, ho letto votate per noi perché così avrete più treni, i treni arriveranno in orario. Io dico, come si fa a fare un manifesto di questo tipo? I treni arriveranno in orario, come nel fascismo! Una bicicletta nuova, io ho comprato però tu. Sei c'hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Io voglio dire a tutti gli amici musulmani che non ne frega niente, io non sono con i francesi, non l'ho deciso io, non l'abbiamo deciso. Se proprio volete bombardare o mandare qualche missile, allora diamo noi le coordinate al missile. Diamo noi le coordinate. E le coordinate giuste sono 41 gradi, 54 primi, latitudine nord, 12 gradi, 28 primi, longitudine est. È leggermente più giù di Bologna. È una cittadina carina. Roma, il punto è chirurgico, il vuoto di Newton, il Parlamento italiano. Ah, terrorista! Ma il culetto è mio perciò, la puntura, no, no, no, ma il culetto è mio. Chi sarà si fa fare un'intervista, fa l'intervista, se la cava benissimo, poi prendono l'intervista di La Sette, la smontano, la tagliano. Sei veramente scorretto intellettualmente. E allora La Sette, poi mi venga a fare delle cose La Sette. La Sette che deve, è in default di 70 milioni di euro. 70 milioni è all'asta. Io vorrei fare un'opa, comprarla e chiuderla il giorno dopo, sarebbe meraviglioso. Ma chi la paga? È della Telecom. Chi la paga? La paghiamo noi con le bollette del telefono. Che ti ha detto guarirà. Beh, c'è una piccola cosa che è il mercato, Il mercato in cui uno può scegliere la Telecom come può scegliere un'altra azienda, caro Grillo, caro Grillo. Avanti, spara su Grillo per La Sette, avanti, che sei in conflitto di interessi. Avanti, Parenzo, su. No, vabbè, sulla Sette vedo delle stupidaggini mega galattiche, ma non mi interessa niente. Ma perché uno non può fare un'opa e poi chiuderla? Sarà nel suo diritto o no? No, non mi interessa, non entro nel merito di questo, entro nel merito che basta giustificare questo guitto capo della chiesa di Scientology, sì. Basta, sì. Perché è un politico e se un politico dice delle cose violente, sì. E gravi, sì. Sì. Deve essere giudicato che... per le stupidaggini. Vabbè. Che dice. Dice Ma cose infatti violente. Sarà giudicato alle elezioni. Dice, no, dice prenditela con questo invece, con un tale dice che si chiama Pepe, cose... un deputato che si chiama Pepe. Il quale è sposato, io conosco, signor Pepe. Beh, è stato qui ospite alla Zanzara più volte. Il quale Pepe, è sposato un'altra signora che si chiama Malatto, la signora Malatto, la quale ha ottenuto pochi giorni fa dal Senato della Repubblica, credo, l'appalto per alcuni servizi sanitari. Perché c'è una società intestata a lei. Uno potrebbe dire è un caso, ma chissà. C'è un piccolo conflitto di interessi, no? Piccolo. Il signor Pepe, tra l'altro, è quello che ha detto che lui spende i soldi per fare politica perché partecipa ai matrimoni. In un anno va a 21 matrimoni. È testimone di nozze a 21 matrimoni e dunque deve fare i regali. Così si fa politica nelle sue zone, signor Pepe. Lo sai quante testimoni di nozze ho fatto io quest'anno e quanti regali ho portato? Io ho fatto il testimone di nozze a 21 matrimoni. Cioè, c'entra che se il deputato deve fare da ufficiale di collegamento con i cittadini, perché io sono un deputato all'antica, quello che prendeva le preferenze, sto dicendo se uno deve tenere i rapporti con gli elettori, ha, diciamo così, delle esigenze, delle spese che non ha il professore di liceo. E intanto si assottiglia il distacco tra centrosinistra e centrodestra, tra Bersani e Berlusconi. Nicoletta dalla provincia di Bologna. Nicoletta, buonasera. Buonasera. Come mi diverto. Buonasera a tutti. Dica. Allora, io forse sono un po' invidiosa di Dario Fo, perché ha, mi permetta il termine, la fortuna, volevo dire qualcos'altro, la fortuna di avere una persona di fiducia e non ha la minima idea di quanto paga di IMU. Ho capito, no, Nicoletta. Non è mica poco. Guardi che chiunque ha un commercialista, una persona normale, non c'è bisogno di essere milionari, chiunque ha un commercialista magari non sa esattamente quanto paga. Però è vero, lei ha ragione, diciamo, chi non sa esattamente quanto paga di IMU significa che in realtà l'IMU non incide moltissimo sulle finanze. Esatto, sul bilancio. Vabbè, non è un disastro, io dico la verità, io non so esattamente quanto pago, so che ho più o meno una forchetta, ma la cifra esatta non me la ricordo. Cioè, male Ho capito, la cifra è perché tu te la ricordi, Parenzo, quanto paghi? Beh, io non ho case di proprietà, quindi non pago IMU, ma voglio dire, so esattamente quanto dichiaro, quanto guadagno, cioè, beh, io voglio dire, ho anch'io un commercialista che si occupa di questo, però generalmente ha ragione la signora, cioè... è strano che uno non sappia, persone così normali sanno, tu si sa che non sei una persona normale per mille ragioni che non stiamo qui a snocciolare, non certo per la vicenda della tua IMU che sarà sicuramente altissima, viste normale, prima casa, normale. I potentati economici che ti proteggono, però comunque, insomma... Nicoletta, allora? Prima e unica casa, il che è la maggior parte... Quanto paga lei? Quanto ha pagato, scusi? 1.700 euro. Le farebbe piacere riavere questi soldi, come dice Berlusconi? Alla grande, mi farebbe piacere. E dunque lei vota Berlusca, vota Berlusca alla grandissima. Sono ancora indecisa. Diciamo che mi ha affascinato molto questa cosa. Beh, così, sta godendo, sta godendo come una matta. La faccio solo riflettere, signora. Non si Sciura? Aspetta, posso chiamarla Sciura, no? Sì. No, rifletta su questo, i contribuenti italiani sono pressappoco 38.000, pressappoco, diciamo su 60 milioni di italiani, circa 38.000 contribuenti. 38 no? milioni? 38 milioni, pardon, sì, certo, 38 milioni di contribuenti italiani, su 60 milioni di cittadini, 38 milioni. Allora, Berlusconi, in quell'audio strepitoso che il signor Cruciani ha fatto sentire, dice che addirittura, facendo un click, l'Agenzia delle Entrate poi te le restituisce direttamente. Ora, vi immaginate, davvero, al di là della possibilità di restituirlo. Però fammi sentire l'emozione della signora Nicoletta. Nicoletta, no, lei sta godendo come una matta all'idea che qualcuno le ridia i soldi, mi dica la verità. Di avere i miei soldi indietro non sta godendo. Male. Perché la trovo ingiusta e devo dire che Berlusconi alla fine l'ho votato per il passato, non sempre, però alla fine è un gran oratore. Bene, Massimo da Macerata, Massimo da Macerata. È lucignolo. Fai silenzio. È il paese dei balocchi. Massimo da Macerata. Ho bisogno di un consiglio. Dica. Siccome io ho pagato 7-8 mila euro di IMU. Sì. Io sarei anche intenzionato a votarlo, sì, però ho bisogno di un'intercessione perché ho qualche dubbio, avrei bisogno di una qualche garanzia, non so, anche un assegno con una data successiva alle elezioni, cioè come faccio? Posso votarlo? Lei dice come faccio a votarlo e poi non succede un cazzo, dice dopo. Ecco, no? Esattamente, non lo so. Cosa, come dire, cosa non lontana, cosa non impossibile. Ecco, no, qualche dubbio, perché se no non l'ho mai votato, però lo voto, perché 8.000, poi un'altra cosa, ma come fa? In contanti, io li vorrei in contanti, ma più di 1.000 euro non si possono prendere in contanti, come facciamo? Questo è un problema effettivamente, quando ha detto in contanti, ma credevo si riferisse, io li vorrei si in riferiva contanti, a quelli... Si riferiva, a quelli che hanno pagato fino a 400 euro, credo. Ecco, quindi con una serie, vabbè, io mi va bene anche un bonifico, però vorrei una qualche garanzia, come faccio? Si mette in contatto con gli uffici del Popolo della Libertà e dica: io vorrei votare Berlusconi, però vorrei qualche garanzia che se dovesse vincere questi soldi arrivano sul serio, non è che arrivano dopo 3 anni, 4 anni o addirittura non arrivano per niente, giusto? È un assegno con una data successiva alle elezioni. Io faccio una foto al mio voto, il classico voto di scambio, e poi mando la foto contro l'assegno. Beh, va bene? Perché no? Le do tutti gli indirizzi, d'accordo? Grazie Massimo. Grazie. La musica suona senza colori. Ma è con noi a commentare questo grande show di Berlusconi ieri, oggi, domani, dopodomani, la campagna elettorale, il timing, uso questa espressione complicata, il timing della campagna elettorale, caro Parenzo, cioè le scadenze sono dettate da lui con la L maiuscola, diciamo la verità, diciamola tutta la verità, anche tu che sei anti Berlusconi di complemento, devi ammettere questa cosa qui. La campagna elettorale è dettata da Berlusconi, non c'è niente da fare, è così, arriviamoci. No, ma su questo non c'è dubbio, ma io non sono un anti-Berlusconi, io e se non ci fosse, ripeto, se non ci fosse, noi la Clair, giù, dov'è? Abbassa la Clair, ma dai, abbassa la Clair. Avremmo già chiuso tutto, ma altro che avremmo sbarrato tutto. È con noi Michela Biancofiore, buonasera. Buonasera, come sta? Ragazzi? Beh, siamo al top qui. Beh, io guarda. Quanto sta godendo? Quanto sta godendo per questa campagna elettorale di Berlusconi? Me lo dica. Devo dire che sono veramente molto soddisfatta. Beh, sto dando anche una mano direttamente o indirettamente. Ecco, però devo c'è dire il suo che... zampino in qualche proposta, signora Biancofiore? Ma ma... quella per esempio della detrazione delle tasse di ogni scontrino e di ogni ricevuta fiscale non è che sia una mia invenzione, perché si fa in America. Appunto. Però io gliel'ho sempre, gli ho fatto una testa quanto un pallone. Ma quella non l'ha fatta, però non l'ha fatta, no, ancora. Come no, l'ha messa, e come messa? È il nostro programma, sì, certo, l'ha ripetuta anche Alfano ieri, ed è una delle cose che più è attesa dai cittadini italiani, soprattutto da chi fa impresa, da chi fa ovviamente sviluppo, dai professionisti. Basta parlare con la gente, non aspettano. Senta, ma Monti altro. Oggi, Monti, signor Monti, sì, oggi bisogna credere a tutto, certo, anche che Gesù è morto dal freddo, chi? Certo. Monti, chi? Monti chi? Monti sa quello che era la Bocconi, no? Sì, era quello... meglio che rimanesse lì, perché poi insomma, Bocconi, poi da Bocconi a Bocchino, quindi insomma dai. Beh, adesso qui siamo... Così, era meglio, perché era molto più rispettato prima, anche in Europa, credo, da soprattutto dagli italiani. Alla Bocconi, poi attraverso Napolitano e con il vostro consenso è diventato Presidente del Consiglio. Adesso e con Berlusconi, oggi alla 7, manco si sono incrociati, ma manco si sono salutati. Cioè, con il nostro consenso, quando ha spergiurato però nell'aula del Parlamento durante il voto di fiducia che mai si sarebbe candidato, ecco quanto è sincero come persona. Ma poi come lo definisce lei? Come lo definisce lei, signor Monti? Mi dia una definizione del signor Monti. Cattivo e sprezzante del popolo. Cattivo, anzi, sta anche dimostrando una certa violenza verbale in questi giorni. Addirittura lui? Francamente, insomma, vedo che è molto, molto incattivito, molto, molto negativo in tutto e per tutto. Vabbè, quello ha parlato di Achille Lauro. Ha detto di Achille. Perché in faccia che c'ha? Scusi, in faccia. Insomma, non è che sia proprio una persona che quando lo incontri, insomma, ti mette di buon umore, diciamo. Cioè, nel senso che uno si deve toccare ferro quando lo incontra, porta sfiga. Lo dite voi, però, insomma. Ma guardarlo, gira in internet infatti tutta una serie di cose quando lui dice, sono molto divertenti le cose che girano in internet, no? Cioè, quando lui dice il futuro è nelle mie mani, ecco, insomma, poi voi avete già parlato di gesti scaramantici, inquadrano la sua faccia e francamente insomma non lei è che è una fa? Persona che pensa bene. Vabbè, non, un maschio non sono dotata delle cose di cui siete dotati, esatto, voi, un maschio lei dice tocca dove dovete toccare, le donne che fanno? Questo lo dite voi. E noi facciamo, incrociamo le dita. Appena, dito, appena vede la faccia di Monti, lei, oddio, porta sfiga, così è una reazione. Ma cerco di non vederla, perché oggettivamente, pur avendo avuto in passato stima, ultimamente mi sta dando veramente fastidio, perché sto rivelando di essere, oggettivamente, di non essere minimamente, di non avere nessuna plomb. Di essere di maniera e non di sostanza. Vabbè, anche Berlusconi con lui non è che ci va a te, ci va a leggere. Beh, ma comunque Berlusconi non insulta mai, dice la verità delle cose. Quello ha detto, è come Achille Lauro, la compravendita di voti. Detto una cosa, però attenzione, Berlusconi ha detto una cosa che sta dicendo in maniera sacrosanta, non lo sta dicendo lui, la Banca d'Italia, lo dice Banca d'Italia, lo dice il Sole 24 Ore, che in un anno di governo Prodi, passare dal baratro come dice lui, se fossimo stati sul baratro, non è andato in default neanche la Grecia, l'Italia sarebbe andata allora, in default. Oggi, non sono ballisti, ma voglio finire questo discorso. No, ma ho capito. Ho capito, ma non so se l'hanno capito i cittadini lì ci sono i comizi. In un anno di governo Monti, tutti gli indicatori sociali sono un segno negativo, tranne lo spread ha parlato di tentata corruzione di Alice nel paese sulla proposta di Berlusconi. Io gli ho risposto, l'avete visto che sono stata la prima a rispondere. Poi i soldi, se quella è tentata corruzione, la sua allora è riuscita estorsione ai danni del popolo italiano, cioè a questo punto uno deve pensare quello, visto e considerato. Ma se lo incontra, se lei lo incrocia per strada, Monti, che reazione ha, signora Biancofiore? Sono curioso. Non ne ho nessuna, perché mi è completamente indifferente, mi dà solo fastidio che in una campagna elettorale già difficile di per sé, perché i cittadini hanno problemi molto seri. Ho capito, ma Berlusconi propone delle cose violente, proprio violente, sta usando una violenza probabilmente grazie al suo guru americano. E chi è il guru americano? Tanto più da parte di uno che non è stato eletto da nessuno, che non è stato voluto da nessuno, che non è amato da nessuno, tantomeno è senatore a vita, è senatore a vita. Sì, per quali meriti? Lei sta parlando di un senatore a vita. Lo sapete, sì, io lo rispetto per i senatori a vita laddove effettivamente rispecchiano la Costituzione. La Costituzione dice per meriti eccezionali. Qual è il merito di Monti? Di essere andato in Europa a fare il commissario europeo grazie a un signore che si chiama Silvio Berlusconi? Ma anche su questo, insomma, che la gratitudine sia il sentimento del giorno prima, lo sappiamo tutti, insomma. Io poi lo so molto bene, a mie spese. Scusi, ma Berlusconi vuole rimborsare in contanti. Ma ha ragione. Ma come ha ragione in contanti? Ciao Biancofiore. Allora, in contanti perché ci stanno i 1000 euro di tetto, quello è il vostro problema, dice lei. capito, in contanti sembra una cosa così, arrivata alla banca, allo sportello, hai... Ma no, fino a... la posta verrà rimborsata oppure sul conto corrente. Ma perché non gli dà direttamente lui i soldi, Berlusconi? Ma perché non ce li ha tutti quei soldi che hanno rubato agli italiani in questi anni? Non ce li ha, è vero che è ricco, ma non tutti quelli, perché dovrebbe dargli a lui? Cioè lui i soldi che ha li ha prodotti col suo lavoro. Achille Lauro per Achille Lauro. Ma scusi. Aspetta, allora voglio dire, uno se fa una promessa elettorale o se fa una proposta elettorale è voto di scambio, allora sono tutti voti di scambio. Aspetti un attimo, dove si trova lei? Signora Biancofiore, che sentiamo male. A Bolzano, nel mio collegio elettorale. Ah, ecco, bene, adesso mi metta vicino Perché sono capolista del Trentino Alto Adige, sì, sto facendo commissario del Trentino Alto Adige, con tanto di scrittura di Berlusconi che abbiamo visto su internet, capito? È un onere, oltre che un onore. Beh, che c'è, Parenzo? Dimmi, che c'è? No, volevo dire all'onorevole. Ma lo sai che c'è un signore? Si è tatuato un disoccupato in Sardegna? Sì, ho visto. Beh, questa la dice lunga, voglio dire. Non credo che un disoccupato di sinistra si sarebbe mai tatuato la foto di Bersani, ecco, o di D'Alema, o di Renzi, o di chi più ne ha più ne metta, tantomeno di Monti. Anzi, questo signore sarà disoccupato anche grazie a Monti. Cioè, lei sta dicendo che, vuol dire, che Berlusconi è sempre il più amato dagli italiani. Che poi, da quanto tempo ve l'ho detto? Su, dovete darmi retta come la Scavolini del fatto che io vi ho sempre detto che Berlusconi sarebbe risceso in politica, che sarebbe risceso in campo e che avrebbe vinto le elezioni. Vabbè, vinto le elezioni, adesso calma. Vinto le elezioni, calma. Ragazzi, ci vediamo il 25 febbraio. Facciamo una scommessa qui con noi. Facciamolo. Quanto prendete, signor Biancofiore? Alla fine, quanto prendete? Prendiamo, non lo so, perché io non sono molto matematica, però sono girando fra la gente, quello sì, ve l'ho sempre detto, io vado al supermercato, mi metto ancora in questi giorni? Questi giorni? Assolutamente, ieri sono andata all'ipermercato, l'unico aperto di domenica, ho i testimoni, perché a Bolzano è tutto chiuso, perché ovviamente facendo campagna elettorale dalla mattina alla sera non avevo niente da mangiare. Che gli hanno detto? Ma tutti mi dicono fichissima sta cosa di Berlusconi, grandioso, bello, è sempre il migliore. Ci sento proprio un'aria di forte ascesa. Un'area di forte ascesa. Ti credo. Cosa? Vabbè. Perché? Parenzo, che dici? No, ma voglio dire, ma ti credo, ma se uno promette, se adesso Berlusconi ho capito Davide, ma il problema è che vi sembra che Berlusconi ha promesso e non ha mantenuto. Lici, ma quale costantemente? Gli elettori non sono mica sciocchi. Allora, Lici, lui ha detto di toglierla, l'ha tolta. Benissimo, ha promesso di toglierla in campagna elettorale, cioè lui ha fatto governo nel 2008, tutte le promesse che ha fatto le ha mantenute, secondo lei? Assolutamente sì. Ma su, siamo a Bancofiore, come si fa a dire una cosa del genere? No, non è secondo me. Ma secondo chi? L'Università di Siena. Ancora con sta storia dell'Università di Siena. Insomma, l'Università di Siena non è certo vicino a noi. Adesso che abbiamo realizzato l'80%. Insomma, allora ripetiamolo insieme. Lici l'ha tolta, sì o no? Credo di sì, no? Allora, l'ha tolta, credo, la promessa, poi l'ha tolta. Siamo stati costretti a mettere l'IMU. Attenzione, vi ricordate le tasse? Ma perché si sente così male? Perché si sente così male? Stia ferma. Perché sono al cellulare, purtroppo, ahimè. Stia ferma, sono ferma. Comunque, la tasse di successione e donazione, ve le ricordate? Vabbè, se non facciamo l'elenco, è troppo lungo. Ma a voi non vi piace che vi faccio l'elenco delle cose che lui ha detto e che ha fatto? Le ha sempre fatte. Ma lei si tatuerebbe su un braccio la foto, l'immagine di Berlusconi? No, però quella di Forza Italia sì, la bandierina di Forza Italia lo farei. Di Berlusconi no, ma quella ce l'ha nel cuore, non c'è bisogno. Però la bandierina di Forza Italia, perché non lo fa, scusi, la bandierina di Forza Italia? Ma perché non amo molto i tatuaggi, a me non piace uniformarmi alla massa. Però se dovessi pensare a un tatuaggio da farmi mai nella vita, ma l'ho già detto tanto tempo fa, mi farei la bandierina di Forza Italia, perché è stato insomma molto significativo. Però guardi che la faccia di Berlusconi non è male, quella che ha fatto questo signore. No, non ne ho bisogno, la vedo spesso la faccia di Berlusconi. Quello ce l'ho nel cuore. Quando si sposa? Io sono interessato, vedo. Anche se l'ha scritto qualche giornale, non è in programma, ecco, quindi al momento non è in programma. Facciamo così, signora Biancofiore. Qualora dovesse vincere Berlusconi, faccia questo fioretto alla Zanzara, dice: due giorni dopo la vittoria di Berlusconi organizzo il mio matrimonio. Non posso, c'è un piccolo impedimento, ma comunque posso pensare di organizzarlo. Attenzione, qui c'è la notizia, caro. La Biancofiore non è più fidanzata. No, sono assolutamente fidanzata. soltanto che lui è un separato ma non è un divorziato. Qui non mi posso sposare nell'immediato, però posso programmarlo. Beh, siete molti là nel centrodestra. Tra le tante cose, che non avete fatto. Perché non fate il divorzio breve? Ma l'abbiamo, l'abbiamo proposto. Ma che avete proposto? Avete bloccato? L'abbiamo proposto. Come no? È a firma dell'onorevole Santelli, della mia amica onorevole Santelli. Ho capito, ma i cattolici che avete là. Ho capito, ho capito. Purtroppo questo dipende sempre purtroppo dalle interferenze, ma la volontà c'è. Ma lo sa che Berlusconi... Perché tante interferenze ho avuto io su tanti progetti di legge. Intanto, intanto lei non si è liberata di un po' di gente di prima di AN, ma di Gasparri, di Gasparri no, è rimasto nel PDL. È rimasto molto solino soletto, Però tutti quelli, i suoi scagnozzi sul territorio sono andati via tutti, quelli che lui, che mi facevano la guerra qua. Si ricordi, cioè sono andati tutti, tutti con Fratelli d'Italia? Sono andati tutti con Fratelli Italia, ma la cosa divertente è che questo Holtzman, che sapete benissimo, che mitico Holtzman, che vi avevo detto che neanche se fosse l'ultimo uomo sulla faccia della terra, ovviamente salverà la razza umana. Certo. Bene, questo signore non è riuscito neanche a raccogliere le firme per la lista di Fratelli d'Italia nella regione Trentino Alto Adige, dove non ci sarà la lista di Fratelli d'Italia. E lei gode come una matta. Ci sono tanti amici, però purtroppo, come dire, e il cavallo di razza si vede alla distanza e tutti i però Gasparri, il suo nemico Gasparri è rimasto là. Ma sì, ma è solo soletto, poi sai, nel momento in cui gli togli l'alfiere al nemico, poi lui era mio nemico solo perché faceva, perché comunque difendeva questo tizio. C'è stata una guerra all'ultimo sangue tra di lei. Sì, però questo tizio ha girato le spalle anche a lui, quindi mi auguro che Gasparri capisca che forse avevo ragione io. Comunque guardi che Berlusconi con i cani l'ha tradita, perché invece del suo l'ha tradito, visto oggi. No, quella l'ha adottata, la mia Paghi è assolutamente la sua mascotte. Beh, la vediamo spesso. Cioè, non ho capito chi è che conta di più. Paghi. Quella l'ha adottata, quella è una cagnolina trovatella che giustamente Maria Vittoria gli ha fatto adottare, in senso per non abbandonare i cani. Paghi non è abbandonata, ma comunque la sua mascotte è Paghi. La sua mascotte è il Carlino Paghi. Invece sì, quelle che abbiamo visto oggi sul giornale È cresciuta la mia Paghi da quel giorno che avete visto. Ma che fa? Dove sta? Dove viene abbandonata? Adesso vi sta ascoltando esattamente fra le mie braccia in questo momento, vi sta ascoltando. Lei ronfa, beata lei, vista da cani, capito? E qui però è diventata molto più grande dopo che l'ha presa in braccio Berlusconi, perché è cresciuta insieme al consenso, capito? Senti come protesta quella cagna lì, senti come abbaia. Basta, Ivo, basta, ma la mia non abbaia, è buona, è berlusconiana, è simpatica, è carina, non abbaia, è buona. Com'è berlusconiana? È berlusconiana a morire, è una cagna berlusconiana. Come fa a essere berlusconiana? Non è una cagna, innanzitutto è un cagnolino, un cucciolo, è una cagnina. E non lo userei in senso dispregiativo. Come si chiama? Un cane femmina, come si chiama? Cagna, no? No, cagnolina. Cagnolina. Una cagnolina berlusconiana. Allora, innanzitutto, è tenerissima la mia. Una delle notizie di oggi è che Carla Bruni è ospite al Festival di Sanremo. Beh, allora sì che siamo felici. Ha capito? Grande successo, una donna di grande Berlusconi, successo. Berlusconi, secondo lei, dovrebbe andare al Festival di Sanremo? No, Berlusconi canta molto meglio di tanti che si presenteranno al Festival di Sanremo. No. Però Berlusconi Berlusconi ha una voce pazzesca. Ma no, cioè potrebbe andare tranquillamente a Sanremo a cantare, secondo lei? Ma assolutamente sì, ha veramente una voce pazzesca. Io ve la vorrei far ascoltare, vi assicuro. Se non l'avete mai ascoltato, ascoltate. Ma abbiamo qualcosa, adesso fra poco gliela facciamo sentire. Ma Berlusconi potrebbe andare tranquillamente a Sanremo a gareggiare, sarebbe meglio di tanti altri. Non sto scherzando, d'altronde lui faceva anche il cantante sulle navi da crociera per pagarsi gli studi da giovane. Ha una bellissima voce, soprattutto quando... Ma ce l'ha un difetto, secondo lei? Siamo a Biancofiore. Un difetto. Me ne dica uno, oppure l'essere... No, ce l'ha, glieli dico anche sempre. Uno, me ne dica uno. Uno è quello che non si sa circondare spesso della gente questo non è un difetto intorno. Uno, ma due, capita, suo di carattere. Ogni tanto lui ha degli innamoramenti facili delle persone, poi dopo insomma, come visto, come si vede, ogni tanto tradiscono, insomma, spesso e volentieri. Pubblicità, torniamo subito per la conclusione con Michela Biancofiore. 800 24 00 24, la zanzara, non ci mollate. Sì, era meglio che rimanesse lì, perché poi insomma è passato da boccone a bocchino, quindi insomma dai. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Tu sei come... Ma lo sai che più ci penso, caro Parenzo, più questo tatuaggio di Berlusconi sul braccio di questo disoccupato sardo mi piace assai? Ma che ti devo dire? Sì. Hai dei gusti strani, amico mio, che ti devo dire? Ma dice, ci ha salvato dai comunisti. Dice anche, oggi ancora più di prima c'è necessità che Berlusconi salvi l'Italia da Bersani, no, e Monti. Secondo me Berlusconi dovrebbe portarlo in giro per la campagna elettorale, questo signore. Io questo vorrei conoscerlo, perché già... fra poco lo conoscerai, non ti preoccupare, fra poco lo conoscerai. Immaginavo che nel grande circo della Zara ci non potesse mancare. Però voglio dire, io capisco uno che si tatua sul braccio, che c'è il nome della figlia, che so io, il nome del proprio cagnolino Bobo, eh? Ma figurati se Mughini si fa i tatuaggi. No, sto scherzando, ma voglio dire, posso capire tutto, ma uno che si tatua la faccia, si tatua sul suo corpo, cioè sul tuo corpo ti fai uno sfregio, questo non lo capisco. E vabbè, ma ci sono tanti tatuaggi, un viso di Berlusconi che... Il viso di Berlusconi che sarà mai. Io vorrei capire una cosa però dalla signora Biancofiore. Ma secondo lei veramente se Berlusconi si gareggiasse a Sanremo potrebbe vincere? Potrebbe vincere, sì, perché ha veramente una bella voce. Non sto scherzando, ma no, siete invidiosi, ma... che ve lo volete fare anche voi il tatuaggio che vi ha bottuto il povero disoccupato. No, il disoccupato mi ha affascinato, perché guardi appunto, che il tatuaggio è bello, sì, lo guardi, sì, bene su internet, non è male, sì, il tatuaggio. No, immagino, ma non so chi l'ha disegnato, sarà un tatuatore eccezionale, voglio dire, deve essere uno che ha una passione per Berlusconi. Ma la voce di Berlusconi ce l'abbiamo, che canta, come no? Ce l'abbiamo, no? Ma senti, sono aspetti, delle canzoni francesi incise, molto belle. Aspetti. Oh mamma mia, mi sull'unta, ego la nostalgia del me Milan, mi vorraria tornare domani, il giuri curaria col cuore in mano. Beh, cara signora Biancofiore, non è male anche questa, però, come però io ho sentito delle canzoni molto, però, belle in francese cantate da lui. Però Sanremo, su, dai, queste sono cose che si fanno al piano bar. Ma no, veramente, perché quanti cantanti che sono andati a Sanremo prima hanno fatto il piano bar, su. Ma lei lo sa, lei lo sa il cachet della signora Littizzetto a Sanremo? No, non lo voglio nemmeno sapere, perché sarei molto invidiosa, perché poi si dice degli stipendi dei politici, ma in realtà, insomma, voglio dire, quelli delle star sono ben altra cosa, ecco. Ho capito, però uno va, c'è la pubblicità lì, c'è la pubblicità lì, ci sono un sacco di cose. La paghiamo noi, la pagano gli italiani anche quella, no, la pubblicità, veramente sarebbe il servizio pubblico quello, vi ricordo che viene pagato con il canone. Ho capito, 300.000 credo che sia, 300.000 credo che sia. Poveretta, 300.000 per una serata, due serate, quante sono? No, 4, ma ho capito, c'è la preparazione, tutto. Ma lo paga la pubblicità, lo paga, ma perché? Ma paga la pubblicità, la pagano gli italiani, poi è bravissimo. Vabbè, allora non bisognava, perché Sanremo, mi fa tanto, capito, ridere, anche se è viscerosamente anti-berlusconiana, a me fa molto ridere, ammetto che è veramente brava. Ma però sarà un festival secondo lei berlusconiano, anti-berlusconiano con la Litti? Cioè, condotto da Fabio Fazio, come può essere non anti-berlusconiano? È ovvio. La Littizzetto, Carla Bruni, pure certo che su Berlusconi non ci va. Pure Carla Bruni, vabbè, ma Carla Bruni è meglio che, insomma, si consegna al pudore del silenzio, visto che il suo marito, insomma, non ha fatto una bella figura dopo aver insultato Berlusconi, l'hanno mandata a casa direttamente. Intanto adesso la invitiamo a Sanremo. Perché certo è un nome, no? Ovviamente bisogna far clamore, più che altro è invitata come moglie di Sarkozy. Ormai non conta più nulla Sarkozy. Adesso poi si vedrà. Ma comunque in Francia hanno approvato i matrimoni gay, ha visto, sì? Primo passo, grande passo, ci abbiamo contenti Viola, loro. Perché contenti loro? Ma è giusto. Perché io non sono d'accordo sui matrimoni gay. Sono d'accordo che uno possa ovviamente avere una relazione, che debbano essere riconosciute le unioni civili, tutto questo sì, però il matrimonio è quello basato su un uomo, una donna, la famiglia è cristiana e cattolica, io sono cattolica. Quindi c'è poco da fare, insomma, prevedo che il matrimonio, poi che voglio dire, ci sono tante forme, no, per curarsi amore, io non è che contesto il fatto che si possa essere o meno, ovviamente. Certo. Scusi un attimo, secondo lei un bambino che nasce all'interno di una coppia omosessuale, come cresce, secondo me? Un po' disturbato? Un bambino che nasce all'interno di una coppia, esattamente, si è dato la zappa sui piedi. Esattamente, proprio hai colpito nel segno, mio caro amico, perché effettivamente il problema è che non nasce. Viene adottato. Diciamo così, ma vi rendete conto, punto di domanda, ma vi rendete conto quanto sarà, purtroppo, quanto sarà soggetto agli sberleffi, al bullismo, a tutte queste situazioni che si creano purtroppo nelle scuole, quanto un ragazzino soffrirà, perché purtroppo ancora oggi non viene vista con una normalità, ma è giusto, non è la normalità, se cioè è svantaggiato secondo lei, evidentemente, ma scusa, tra un uomo e una donna, un figlio, no? Vabbè, ma sarà svantaggiato allora rispetto agli altri. Ma persone come lei che dicono che è normale. Ma non è che io dico che è normale, io non ho mai detto che è normale, ho detto che per me è sacrosanto l'amore in generale, voglio dire, poi anzi devo dire che ho insomma rispetto anche per la sofferenza che hanno avuto queste persone, perché è una sofferenza tutt'oggi. Ma c'è più possibilità che diventi omosessuale pure lui? Chi? Il bambino che cresce in una famiglia, che ne so, con due uomini e due donne. Credo che invece sarà soggetto a, perché comunque non mi venite a dire che una coppia di omosessuali che hanno quindi lo stesso sesso, cioè, è soffrirà. Normale che abbiano un figlio. Se Gesù Cristo per ha fatto ovviamente che la donna procrea e l'uomo no, ci sarà un motivo, no? Gesù Cristo, adesso non scomodiamo Gesù Cristo. Certo, ma io direi Gesù Cristo, poi insomma ognuno lo può chiamare come vuole. No, però voglio dire, secondo lei è rispetto agli altri è handicappato. Diciamo. No, assolutamente handicappato. Ma handicappato nel senso per gli handicappati portatori di. Sì. No, ma handicappato non nel senso di chi ha un sarà guardato in maniera strana ed è così, punto. A parte che insomma, voglio dire, già spesso e volentieri basti pensare, voglio dire, alla coppia Elton John con il suo uomo, suo marito, quel che è, insomma, già sono, voglio dire, già coppie eccentriche di loro. Pensate, vabbè, insomma, a questi ragazzini che non cresceranno nella normalità, insomma, quando gli altri genitori diranno: ma perché tu hai due papà o due mamme? E quello dice: sono cresciuto lì, mi sento bene, sono tranquillo. Che fanno? Saranno presi per il culo tutta la. Ma certo, ma ci saranno un sacco di problemi. Questi ragazzini saranno devastati psicologicamente. Io in questi casi non penso ai genitori e all'egoismo dei genitori. Io vedo un sacco di persone devastate anche nelle famiglie eterosessuali. Sì, è vero, verissimo. Infatti, è verissimo. Su questo è chi dice il contrario. Però anche questi ragazzini saranno devastati. Facciamo una società di devastati, un po' per i divorzi, un po' comunque in giro è pieno di Froge, onorevole Biancofiore. Io li chiamo così perché io posso usare questa parola tranquillamente, me l'hanno consentito tutte le associazioni gay di cui sono paladino. Sì, sono stato sdoganato da questa cosa. Ma io mica sono contrario ai gay, cioè, voglio dire, io dico che ognuno nella propria vita, se ha quella tendenza, ha quella tendenza. Nel suo palazzo, secondo me, a Bolzano ci sono, lei bussa la porta, senso, bussa la porta, sicuramente c'è un frocio. Io sicuro. Ho grande rispetto per tutti gli esseri umani, io anzi vengo dalla trincea dell'apartheid, delle gabbie etniche dell'Alto Adige, io detesto tutte le gabbie etniche o comunque insomma razziali, quindi figuriamoci. Non sono a quello, però ci sono delle cose che oggettivamente l'abbraccio fortissimo, ci sentiamo presto, ciao, ciao. 25-26 vabbè, che c'è, avremmo vinto le elezioni, vabbè ciao. Io la combatto. Oh, andiamo a Brescia da Giovanni, buonasera. Brescia. Vada. Buonasera Cruciani. Allora? Mi piace che mi abbia chiamato solo adesso, perché alcuni degli argomenti affrontati dalla Biancofiore io li condivido in pieno, soprattutto sull'analisi che ha fatto di quello che veramente Monti, se facciamo 12 mesi di retrofit indietro e andiamo a vedere il Monti di adesso, ha calato una maschera veramente. Che maschera ha calato? Ma una maschera veramente con dei linguaggi che, se noi ce lo ricordiamo, addirittura non schivava i giornalisti addirittura. Adesso addirittura poi con anche quella, diciamo che ho sentito. Ma che deve fare? Sta in campagna elettorale? È in campagna elettorale? Che deve fare? È in campagna elettorale? Ma non è l'uomo che doveva presentarsi agli italiani in questa maniera. Ma uno sarà, vuol dire, sarà, sì, però al di là del fatto che a me un po' molto. Mi scusi, poi lui parla così di Berlusconi, ma ne ha la gente corre, come si dice a Brescia. Berlusconi, poi ricordiamoci una cosa, che se lui ha detto. Un attimo, notizia, Lores da Vicenza. Lores. Sì, buonasera. Dica. Allora. Aspettate un attimo. Notizione. Prima volevo, mi permette prima di dire un'altra cosa. Volevo fare una prova generale per noi, cioè poveri mortali. Cioè, volevo dire a tutti quelli come me che Mi scusi, sono a letto influenzata. No, però io leggo qua una cosa, al di là della prova generale. Leggo una riga. So dove si trova. Il busto di chi? Almirante. Ma non ci posso. Dell'onorevole illustrissimo Almirante. Dove? E non quel beccafico di Parenzo che non dove sa. Si trova il busto allora, Almirante? Allora, prima dovevo dire un'altra cosa. Allora, volevo dire a tutti come quelli come me che erano appassionatissimi di questa radio. Che proviamo a fare una prova generale sia per i politici che con voi, cioè noi diciamo quello che vogliamo alla signorina, poi quando parliamo in diretta diciamo voi, ma lei può fare quello che vuole, allora, non ci rompa i coglioni. Volevo noi possiamo dire, lei può dire fare quello che vuole, su il gusto di Almirante, allora se voi foste meno ignoranti sapreste che basta una piccola percentuale di stagno e rame e si fa il bronzo. Naturalmente il bronzo dell'onorevole Almirante era di, cioè il busto dell'onorevole Almirante era di bronzo. E allora? Non è un fattore ideologico come quello stronzo di Parenzo vuole far credere. Sì. Scusi? Sono i ladri dell'est, sono i ladri comunisti come lui che vanno a rubare. Anche qui in provincia di Vicenza abbiamo i cimiteri devastati dai ladri dell'est. Ma veramente non è mai andato a rubare ma in un cimitero il signor Parenzo? Ma come si permette? No, ho detto l'ignorante di Parenzo. Vabbè, ma questa è una malata. Facciamo una prova generale. Questa è una malata. Mettiamo giù il telefono e diciamo tutti a casa. Andranno a casa anche Parenzo e Cruciani. Ma buonasera. Di che sta parlando? Ma è matta? Ma chiamiamo, signora, ma dove si trova, signora? Ma signora, ma perché è scappata dall'ospedale in pigiama? Non ho mica capito. Fa anche freddo a Vicenza. È scappata dall'ospedale in pigiama. Amici di Vicenza, ma inseguitela, fa freddo. Ci sono 4 gradi a Vicenza. All'ospedale psichiatrico di Vicenza c'è una signora, si chiama Lores, che è fuggita. Pubblicità. C'è una mosca, una zanzara comunista che mi ha preso. Vedi? Eccola qua. La zanzarita tormenta la mia noche, pasa en blanco, mañana yo soy stanco, como una muchachita, baila con ritmo bueno, no le importa mucho, si no prendo sueno, no le importa mucho, si no prendo. Le promesse di Berlusconi, te lo ricordi 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro? Ma come no? Ma certo. E vai, meno... e se risentiamo, su. Si impegna a realizzare nei 5 anni di governo i seguenti obiettivi: dimezzamento dell'attuale tasso di disoccupazione con la creazione di almeno 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro. Lici sulla prima casa, 2006. Per noi la casa, la prima casa, è sacra, come è sacra la famiglia. Per questo aboliremo Lici. Avete capito bene? Aboliremo l'ICI su tutte le prime case e quindi anche sulla vostra. Poi ci fu una digressione, a un certo punto parlò, fu una frase molto contestata, di vincere il cancro. Era il 2010. Vogliamo anche vincere il cancro, che colpisce ogni anno 250.000 italiani e che riguarda quasi 2 milioni di nostri cittadini. Si è arrabbiato anche il mago Telma oggi, eh? Il mago Telma se l'è presa con Vendola. Era difficile immaginarsi che potesse ritornare come se fosse ritornata Vanna Marchi e come se si candidasse il mago Telma per governare l'Italia. Come li vogliamo educare questi italiani se gli diciamo che se leggono è troppo complicato? Bechis. Ma come li vogliamo cambiare se semplicemente basta che Berlusconi prenda con le sue chiacchiere? Anche lei. Ma certo, ma su. Siamo qui 800 24 00 24. Cristian Novara, buonasera Cristian. Sì, buonasera. Vada. Io volevo dire una cosa riguardo Berlusconi. Ho capito una cosa, aveva ragione quando diceva che l'Italia ha bisogno di uno come lui. Noi italiani abbiamo bisogno proprio di un pagliaccio come lui, che ci fa ridere, che ci rallegra queste giornate, anche su Facebook e tutti i link che girano. è bello avere uno come lui che con una parola dice tre cazzate, è bellissimo. Adesso prometto che domani piove soldi, votiamo Berlusconi, bravo, votiamo Berlusconi, tanto abbiamo preso in culo due volte, la prenderemo in culo la terza volta, votiamo Berlusconi, va bene così, noi italiani ci piace prenderlo, continuiamo a prenderlo, va bene, votiamo Berlusconi, ci ridiamo dietro i soldi, va benissimo. Olè, tutti così, tutti di pronto a votare Berlusconi. Sto lontano così, andiamo lontanissimo, andiamo. Grazie Simone, Simone dalla provincia di Bologna, buonasera. Sì, salve Cruciari, buonasera. Vada, vada. Niente, io volevo solo dire che con l'IMU ci stanno facendo una campagna elettorale da disinformazione totale. Sento poco, non si sente nulla. Antonio, provincia di Brescia. Sì, pronto, buonasera. Vada. Sì, buonasera, io vorrei dire, ma questo cazzo di Maroni cosa vuole? Cosa vuole il 75 di Maroni? Maroni, sì. L'amico di Bossi, l'amico del cornuto con le corna verde. Stia calmo, stia tranquillo. E che deve stare calmo quando ci teniamo il 75% delle tasse? Se le tenga tutte, si tenga il 100% delle tasse. Che si tenga anche il 100% dei suoi prodotti. Sì. Si tengono il 75%, noi gli regaliamo il 25%, arrivano a 100%, e gli regaliamo, glieli rispediamo al mittente tutti i 100% prodotti loro che vengono qui a sud a sottrarci i soldi. Ma che cazzo vuole questo Maroni? 75% di là, che politica è? Vuole stare in Italia, vuole soffrire del sistema nazione, allora paghi come pagano tutte le altre regioni. Non vuole, allora se ne vada fuori da coglioni. Ma è quello che vorrebbe fare, E se ne vada in fretta, perché prima di lui lo vogliamo noi che se ne vada. Sì, perché è così che fate, i neoborbonici, che fate, il regno delle due Sicilie. Ma non i neoborbonici, non due Sicilie, facciamo una nazione pulita, perché non è possibile che questo qua viene e che fa, 75% ce ne vengo io. È facile, no? È come se vendiamo in Europa, sì. Vendiamo in Europa, prendiamo i contributi europei, però poi diventiamo la bella Italia, si arricchisce e non diamo niente alle altre nazioni. Non sarebbe giusto. Se vogliamo usufruire di un sistema economico, sì, politico, bisogna contribuire tutti. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha beccato, ai, ai, mi ha beccato. Giuseppe, provincia di Chieti, buonasera. Fra poco il matto, fra poco arriva il matto. Ah, buonasera dottorino Cruciani. Oh, beh, caro Giuseppe, come sta? Bene, bene, lei? Ma non c'è male, non c'è male. Che vuole dire a Parenzo? Che vuole dire? Ascolti, prima che finisce la telefonata, sì, siccome lei chiede a tutti quando guadagna, una domanda indiscreta: quando guadagna lei il suo lustrascarpe, me lo fa sapere appena finisce la telefonata? Ma l'abbiamo detto 40.000 volte, Giuseppe. Me ne frega. Io non dico più niente, io me ne fotto. Me ne fotto di lei, me ne fotto del suo pensiero, della sua volgarità. Guardi, lei c'ha una faccia proprio da pappagallo, che quando mia moglie l'ha vista in televisione, ha detto proprio un pappagallo, ha detto. Allora, lei è peggio di Monti. Monti c'ha una faccia da infartuato e lei, sì, c'ha una faccia da pappagallo, ok? Ma che vuol dire la faccia da pappagallo? Guardi, io ho messo la sua foto... Io se mi manda la sua foto, io la metto nei bagni della stazione centrale, così aiuta. Radio 24 alla Germania, no? Lei il dottorino, il bravo dottorini, ma questo poveretto è andato, Merkel, questo è andato. E il suo aiutante lustrascarpe al nostro presidente del consiglio infartuato, ok? Sì, sì. Adesso che è successo? Che è successa? Il suo aiutante lustrascarpe, sì, sta facendo cordere punti alla sua trasmissione. Ma questo non mi risulta, comunque, se lo dice lei. Vabbè. Invece in Italia abbiamo un presidente infartuato che ha fatto venire la trombosi, l'ictus, a tutti gli italiani. Sì. Cioè, il suo aiutante le fa da lustrascarpe, no? Noi abbiamo un presidente del consiglio che fa da reggicalze alla culona tedesca, sì, ok? Sì. Io dico Berlusconi, vai avanti, non ti fermare. Parenzo, di qualcosa, ti prego. Ma no, ma di fronte a un caso il bip, appena parla il suo aiutante, si accende il bip, quindi aiutante ancora. Beh, non è problema essere, ma perché lei pensa di insultarmi se mi dà del lustrascarpe? Ma lei è uno snob, ma va benissimo fare il lustrascarpe. Ma vada a lavorare. Devi andare a lavorare, ha detto Parenzo. Faccia un corso di buona educazione. Non ho mai lavorato in vita sua, mi meraviglio di Radio 24, come fa a pagarlo? Io mai, so mai lavorato. Luciani, il dottorino, sì. Cioè, io sono pagato per insultarla, pensi un po', pensi un po' quanto godo, pensi un po' quanto mi dilatti, io sono pagato per darle dello stronzo, pensi un po'. Ma non dica più stronzate, dai. Allora, a capire... Ma pensi che meraviglia, mi pagano, lei è un cretino, è una cosa meravigliosa. Ha capito? È sublime per me, è sublime, sublime. Parenzo viene pagato per mandarlo a fare in culo, capito? Bellissimo. Ha capito? Ma o no? Guardi, questo prima lo mandate via, è meglio per la trasmissione. Vado a fare, cioè, perché non va a fare il bolscevico numero 2 con l'altro bolscevico là che l'ha raccomandato a Radio 24? Chi è il bolscevico? Chi è il bolscevico? Luca Delisi, il saputone, no? Ma che c'entra? Ma quello... tre giorni curato. Come si chiama questo? Giuseppe. Ha fatto un buco. Quando è il buco? Giuseppe da dove? Come? Il buco che ha fatto il bolscevico numero uno, quando è il buco che ha fatto? E che ne so quanto buco ha fatto? Lui è informato, fa finta di non saperlo. Non lo so, sì, ha perso qualche soldo, signor Tellese. Ma questo quanto, come si chiama questo? Giuseppe dalla provincia di Chieti. Io ogni giorno, caro Giuseppe, da qui fino a quando mi cacceranno, dirò aprirò la trasmissione dicendo Giuseppe è un cretino. E ogni volta che lo dico io guadagno, capisci? Io adoro questa cosa, perché lei, Giuseppe, è ontologicamente un cretino. E ho già guadagnato. Well now, little mosquito, there must be. Beh, cari miei, si è tatuato la faccia di Berlusconi sul braccio. Una faccia sorridente, un po' paffuto Berlusconi in realtà in questo tatuaggio, eh? Però un Berlusconi molto, molto simile a quello vero. Il signor Marino Nonnis, disoccupato da Guspini in provincia... Disoccupato sembra un mestiere, ma comunque insomma la realtà... Guspini in provincia di Cagliari, buonasera. Salve, buonasera. Nonnis, ma chi gliel'ha fatto fare a tatuarsi sto Berlusconi? Me l'ha fatto il grande Silvio, me l'ha fatto fare. Come gliel'ha fatto fare il grande Silvio? Scusi, Nonnis. Purtroppo è da anni che mi ero promesso di farmi il suo volto nel braccio destro e oggi sono riuscito a farlo. Ma scusi, ma lei è contento di ciò che ho fatto. Chi è contento? Io. Ah, lei è contento di quello che ha fatto, ma la sua famiglia? Certo. Ce l'ha una famiglia lei? Sì, ce l'ho, ho moglie e due figli. Moglie e due figli, ma l'hanno visto sto tatuaggio? Certo che l'hanno visto. E beh, come hanno reagito? Tutto a posto, benissimo. E che gli frega, dice loro? Ho due figli piccoli. Che non ci hanno capito nulla? No, hanno capito bene, anzi lo stanno capendo in un paese di comunisti, e questo è il problema. Beh, scusi, ma i comunisti non ci sono più, Nonnis, su... Sì, vabbè, ci siamo capiti che tipo di comunismo stiamo parlando. Che comunismo? A livello del PD, non PD, Bersani, Monti, ci siamo capiti. E Monti pure è comunista adesso? Vabbè. E vabbè che... Bene, cioè, no, non ho capito. Un po' confuso questo signore. Signore, scusa, ma lei dove abita? Guspini mi risulta essere un paese rosso. Nel rosso di brutto, quasi di fuoco. E che le dicono per questo tatuaggio di Berlusconi che ha fatto? Ma a me non me ne frega niente del paese, proprio. Non gliene frega niente. Non me ne può fregare di niente. Guspini, sì. Come si dice? Guspini o Guspini? Guspini. No, Guspini. Guspini. Ma come è fatto questo tatuaggio? Quanto è costato innanzitutto questo tatuaggio? Ma questo, vabbè, costi non si dicono, anche perché è fatto da un favore da un amico. Quindi, beh, costi non si dicono. Ho speso 200 euro. 200 euro? Ma lei è disoccupato? Sì, no, io lavoro. Io ho un piccolo parco. Entrano a vedere i miei animali e visitano all'offerta, e sì. Lavoro in una casa. Ma che ha uno zoo? Guardiano. Un piccolo parco. Uno zoo, che cos'ha? Esatto, io ho dei leopardi, tigri, cavalli, asini sardi e altri animali tipo galline strane. Ma che, chi viene a questo parco? I bambini, chi non viene? Ho capito. Chi viene a visitare questo parco? Sì, vengono bambini, scuole, scolaresche, privati. Sì. E alla fine si è fatto sto... Io non capisco come può, scusi, signor Nonnis, uno come può pensare, dice adesso vado da un tatuatore che è un amico e mi faccio la faccia di Berlusconi. Dove l'ha presa innanzitutto la faccia di Berlusconi? C'è chi si fa Berlusconi, ognuno della sua pelle, penso che ne possa fare quello che vuole, non è che debba chiedere autorizzazioni al paese o a chi sta dietro il paese, cioè la pelle è la mia e ne faccio quello che vuole, mi sembra, poi non lo so. Certo, però uno tutta la vita avrà questa faccia di Berlusconi sul braccio. Sì, beh, certo, ci mancherebbe altro. Lei quando tutta la vita con orgoglio. Lei quando si alza la mattina va allo specchio Berlusconi. E vede Berlusconi. Certo. No, per carità, ma le rende migliore la giornata, evidentemente. Ma non è il fatto che rende migliore o non rende nemmeno migliore la giornata. Il fatto sta è che così e così resta. Non è che possa farmi cambiare ma che idea. Cos'è che l'ha portata a farsi questo tatuaggio? Questa è la cosa. Adoro il suo modo di far politica. Sì? Il problema è uno, che gli sta attorno non lo lasciano governare, forse perché... Sicuramente a causa della gelosia che il grande Silvio sia una potenza imprenditoriale. Sicuramente questo. Se lo facevano governare, come lui vuol fare, forse l'Italia stava meglio. Dice, non che siano a giro non si è tatuato? Quattro gabbiani, buffoni che vuol fare le cose e subito gli tirano giù. Della sua vita privata ne fa quello che vuole. Che dici, Parenzo, che dici? A continuare a cantare bunga, bunga, non bunga bunga, capito? Che gli frega le bunga bunga? No, ma voglio capire da questo Berlusconi sul braccio. Da questo simpatico personaggio sardo, simpatico, perché non si è tatuato, perché in prospettiva non si tatua anche, che so io, l'immagine di Cicchitto, ad esempio. A ma punto. Che c'entra l'immagine di Cicchitto? Perché non si è fatto il tatuaggio, non so, di Sandro Bondi o il tatuaggio di Cicchitto, come dice Parenzo, o di Verdini? Il viso cambia un po'. Beh, su questo non c'è dubbio, Un bel tatuaggio del signor Cicchitto sul braccio, come dice Parenzo, Vabbè, ma no, se lei adora il signor Cicchitto, se lo faccio a lei, visto che lo faccio a lei al sud. Io odio i tatuaggi, non li sopporto. Ma è stato doloroso? A me mi va bene Berlusconi, e manterrò Berlusconi. È stato doloroso questo tatuaggio? Per niente. No. Ma è colorato pure o no? È in bianco e nero? No, bianco e nero. Bianca avrà sicuramente non so se è collegato su Facebook, c'è la foto, quindi. Io ho visto una cosa pazzesca, la faccia ridente, è pure grosso sto tatuaggio. Ma che è piccolissimo. Ma come piccolissimo? Vedo qua un braccio, mezzo, cioè sarà 10 centimetri. Ma no, sarà 5-6 centimetri. Beh 5-6 centimetri, bel viso tondo di Berlusconi tatuato, una cosa pazzesca. Bellissimo. Grazie Nonnis. A voi, grazie, Borsa. Viva Silvio, viva Forza Italia! Sì, non c'è più Forza Italia, Borsa. Beh, danzano come zanzare, queste ombre sulla strada. Berlusconi. Cadono le ceneri. Il Senato si convenziona con lo studio medico di proprietà della moglie del deputato Mario Pepe, ex PDL, ex responsabile, ora gruppo misto, cioè ora. Per fortuna, tra pochi giorni tutto finisce. Questa convenzione è stata stipulata il 7 gennaio, 16 giorni dopo lo scioglimento delle Camere da parte del Capo dello Stato. Ricordiamo, sarà un caso oppure no? Vabbè, lascio a voi la valutazione. Ricordiamo che l'onorevole Pepe ebbe la fortuna di incappare qui da noi alla Zanzara, l'onorevole Mario Pepe, simpaticissimo peraltro, napoletano, velace. Molto. Hanno i piccioni nelle risate del mio riso, mi brucia. È certo che sarei in difficoltà, perché io facevo il medico, sono 12 anni che non faccio più la mia professione, ho fatto solo il parlamentare. Io perciperò una pensione di 1000 euro al mese, sì, col vitalizio, se mi togliessero il vitalizio prenderei una pensione di 1000 euro, 1200, perché sono... vabbè, allora siamo tutti uguali nella miseria. Vabbè, facciamo un sistema che siamo tutti uguali nella miseria. E certo che è una miseria. 1200 euro di pensione al mese, una miseria. Poi c'è la liquidazione, lo chiama assegno di reinserimento, Pepe. Non è una pensione. Sì, è una specie di assegno di reinserimento. E poi la cosa più straordinaria è il testimone di nozze a 21 matrimoni. Lo sai quante testimoni di nozze ho fatto io quest'anno e quanti regali ho portato? Io ho fatto il testimone di nozze a 21 matrimoni. C'è gente che se il deputato deve fare da ufficiale di collegamento con i cittadini, perché io sono un deputato all'antica, quello che prendeva le preferenze, sto dicendo, se uno deve tenere i rapporti con gli elettori, ha, diciamo così, delle esigenze, delle spese che non ha il professore di liceo. I capannoni, è tutto quanto sembra. Piero da Vicenza, buonasera Piero. Ah, carissimo Crociani, buonasera Parenzo. Vada. Niente, io ho sentito un attimo la discussione tra la Biancofiore e voi, cioè più che altro ho sentito solo la Biancofiore, no? Allora mi è venuto voglia di telefonarvi e dire, non siete riusciti neanche a fargli una domanda, quella lì? Ma che domanda vuole? Una macchinetta? Ma che domande vuole? Insomma, che domande dovevamo fare? Qualcosina, di solito voi interloquite con l'ospite che avete al telefono. Non mi sembra di una macchinetta talmente terribile che può capire. Ma non mi sembra di non aver fatto domande. Guardi, caro Piero, quando una persona è innamorata come la Biancofiore. È difficile, diciamo, no, scalfire l'innamoramento, come direbbe il professor Alberoni. Alberoni, sì. Cosa voleva allora chiedere? Allora Parenzo, la giustifichiamo così stasera. Ma cosa vuol giustificare? Di cosa c'era da cavar fuori? Stiamo parlando dell'onorevole White Flower, non è che stiamo dicendo avete intervistato Stiglitz. Dice no, non è Stiglitz. Vabbè, adesso non offendere, un attimo solo, un attimo. C'è una vicenda terribile che riguarda la povera Maurizia, poi ti spiego tutto. Lo so. Che si è portato via l'incasso del Sexy Festival a Milano, sì. Cioè, è lei adesso? No. Pericoloso chiamare così improvvisamente sulla Maurizia. Sì, molto pericoloso. Non è proprio un linguaggio da Confindustria quello che usa la signora Paradiso, ecco, questo voglio dire. Beh, fu già ospite alla Zanzara, arrivò totalmente ubriaca, mi ricordo. Come no? Sì, come no. Si presentò la signora Maurizia Paradiso con un bottiglione di birra in mano e con un prosciutto finto. Siamo al top. Tutta la dirigenza, cioè la rilevante, bellissimo, è stato un momento epocale. Chi è questo, il divino lì? No. Niente, non risponde. Bene, andiamo a pescare, Paolo. Pronto? Sì, Paolo, dica. Buonasera Cusani. Sì. Volevo dire a Parenzo. Sì. Che non mi stava a braccetto con l'intelligenza. No, guardi, la sento male. Enrico da Milano, buonasera. Buonasera da Milano. Dica. Una domanda, allora, 4.000 miliardi di IMU che ritornano nelle tasche dei cittadini. No, 4 miliardi ritornano, bisogna vedere naturalmente se ritornano. Dice Berlusconi che ritornano. Sì. 4 più 4 di quest'anno sono 8, diciamo. Tornano alle tasche degli italiani. Naturalmente questi italiani non porteranno 1.000 euro a testa circa in Svizzera, prenderanno allora? Comprare le tasche, adesso vi rispondo, adesso compreranno il pane eccetera, e quindi qualcosa rientrerà come IVA e come qualcosa nelle tasche dello Stato. Di questi 4 miliardi che devono uscire, in realtà nessuno ha mai fatto un calcolo di quanti ne rientreranno, cioè non è che lo Stato gli fa un buco di 4 miliardi. Lo Stato aumenta il PIB, che è il prodotto interno del popolo, e di conseguenza qualcosa rientrerà nelle tasche. Vabbè, ma lei la fa complicata, dunque? E dunque, a questo punto è così impossibile pensare di dare, restituire 4 miliardi nelle tasche dei cittadini? Beh, è abbastanza complicato, dopodiché uno ci può anche provare, ma insomma, penso che la restituzione di soldi che sono stati pagati è una cosa che non si è mai vista in nessuno Stato. Cioè, adesso, al di là del fatto, non voglio criminalizzare questa proposta, ma insomma, io capisco che uno voglia abolire l'IMU sulla prima. È legittimo politicamente proporre l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, assolutamente legittimo. Bisogna trovare ovviamente la copertura. Insomma, nessuno piace pagare le tasse. Se qualcuno propone l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, ci dica dove trova la copertura e va bene. Ma la restituzione di quello che è stato pagato, cioè, io credo che sia una proposta che non si è mai sentita in nessuna democrazia occidentale. Visto l'esito di come le borse hanno preso questa notizia. Ma questo lo dici tu, che le borse sono state influenzate da questo? Marco da Parma, ma le valutazioni. L'ha scritto Wall Street Journal, ma non è che sia la Bibbia per forza il Wall Street Journal. Marco da Parma. Non è detto che sia questo, sia per questo che le borse hanno reagito in questo modo. Dai, su. Pronto? Sì, Marco, dica. Marco, pronto? Dica. Marco, niente. Mario da Brescia, buonasera. Sì, buonasera. Vada. Posso avere 2 minuti per fare una riflessione? Mario, lei può fare quello che vuole, basta che sia veloce, conciso, efficace. Fa, ho ascoltato una persona che ha detto che i cittadini devono essere educati alla politica, no? Sì. So che il diritto al voto è una cosa importante, tutti dovrebbero votare, però io credo che all'interno della nostra amata Italia i telegiornali, i giornali, le questioni politiche, non già tutti se ne occupano, no? Sì. Io credo che votano anche delle persone che di politica si interessano solo nel momento in cui vanno a votare. Ma guardi che non c'è, per fortuna non, non, non va a votare solamente chi si interessa di politica, cioè, no, no, no, per me per sfortuna vanno anche a votare per sfortuna vanno anche a votare per sfortuna delle, no, no, nel senso che perché io devo essere governato da persone che fanno dei proclami elettorali, tolgono di qua, tolgono di là. Vabbè, no, io quando, non ho capito quando... niente di quello che stai dicendo, di quello che sta dicendo lei. Non ho capito nulla, nulla, zero. Semplicemente che purtroppo. No, lei quando... non sta dicendo niente, nulla. Pronto? Sì. Sto semplicemente dicendo che purtroppo quando il presidente Berlusconi fa la proposta di togliere l'IMU, alcune persone sono attratte da questa proposta. Però non è che mi sembra normale. A ragionare il motivo perché fa questa proposta, capito? Pronto? Sì, ma ho capito, ma dove vuole arrivare? No. Voglio arrivare che praticamente noi dobbiamo sorbirci poi a livello nazionale delle persone che non abbiamo votato perché alcune persone che di politica non se ne frega una mazza, ma si interessano solo in quel frangente dei 30 giorni prima, fanno queste proposte sciocche. Allora l'Italia è un paese in cui per 12 mesi bisogna fare campagna basta, elettorale. Basta, basta. Non basta. Me moleste moschito, non me moleste moschito, non me moleste moschito. Ce l'abbiamo Paolo da Pescara o no? Non ho capito. Ce l'abbiamo o no? Paolo? Sì, ce l'abbiamo. Allora? Mi sente? Sì. Per fortuna. Volevo dire. Sia tranquillo. A Parenzo. Però c'è un ritorno di voce. Vabbè, ma io sento benissimo, vada. Volevo dire a Parenzo che di solito l'umiltà va a braccetto con l'intelligenza. Lui che basta che dice del cretino e guadagna i soldi, no? Se vuole guadagnare qualcosa in più me lo dice anche a me. Ma è quello che l'ha attaccato Paolo? Ma quello che ha detto che sono un lustrascarpe, che è legittimo. Io, no, io non l'ho detto che è un lustrascarpe. No, lei, sarebbe... la persona che è intervenuta prima, su. Sì, vabbè, perché il lustrascarpe non ho capito mica... Sì, ma lo intendeva in senso negativo, ma comunque non è un no, problema, no, infatti Paolo. Nessun problema essere considerato un lustrascarpe, va benissimo. Okay, io ho fatto soltanto una riflessione, un po' di umiltà e un po' di modestia forse le sarebbe meglio. Vabbè, qui non è un posto dove si usa questa arte, quella della umiltà e della modestia. Non si usano queste arti, non si usano queste qualità. Se mi danno del cretino, ce ne sono potrò delle... abbaiare anch'io o no? Potrò abbaiare anch'io. Alessandro da Milano, buonasera Alessandro. Buonasera. Vada. Mi permetta, volevo solo dire una cosa. Per gli altri ascoltatori che continuano a chiedervi quanto guadagnate, ricordo io che Cruciani è su 200.000, Parenzo sui 150-160.000. Bravo, bravo. Meno, bravo. Molto meno. Non molto è vero, meno. Che molto meno? Non dire stronzate. Molto, dai. Molto meno. Non è vero, non meno. Mentire, non mentire. Ma no, ma, ma molto meno di quella cifra. Assolutamente, ma che dici? Ma lo so io benissimo, siamo sui 150. Ma su. Un cazzo, molto meno, non diciamo notizie siamo tante. Siamo sui 150 l'anno. Parenzo in crisi col divorzio. Esatto, ma bravo. Non c'è da non è che mi hai fatto bravo, privati, così, di così Alessandro, ho detto bravo. Molto meno, 150 privati, l'anno, 150 sì, l'anno, su, no, dai, molto non c'è, meno, non c'è, ma che molto meno di che? Ma quando mai, Alessandro? Dica. Meno, assolutamente meno, ma non è un problema, voglio dire, ma... Ho sentito ieri il podcast che lei avrebbe avuto curiosità di parlare con qualcuno che votava Berlusconi solo perché Berlusconi ha comprato Bottelli. Bene, ora ci sono io, può chiedermi quello che vuole. Insomma, vabbè, Alessandro, per me lei è un sì, no, ma lei sarebbe da prendere, tutto. Sarebbe da prendere e portare sì, da uno specialista che dice: vabbè, ma perché? Ma per quale motivo? Cioè, lei vota ma Berlusconi perché le ha preso. Cosa hanno fatto con per me? Mi spieghi gli altri politici cosa hanno fatto invece, per me? Invece non per lei ha comprato Balotelli. Sì, ho capito, ma secondo me lei è da prendere, da portare da uno specialista. Cosa vuole che le dica? Ma non è vero. Allora, io come programma voterei Giannino, fuori la discussione, perché sì, è il migliore, è l'unico realistico. Invece? Okay. Però Giannino cosa ha fatto con me? Magari Giannino prende il 4%, va su solo lui, e è un altro che abbiamo messo su. Almeno Berlusconi che è che già significa su, un altro che abbiamo e messo prende Balotelli su? E mi fa la squadra. Ho capito, ma non è che uno va a votare. Ma non è tanti, che uno va a votare. Ma non è che uno va a votare una persona semplicemente perché ha comprato Balotelli. Lei si rende conto che una cosa. Devo votare Cruciani, ma me li fa sentire lei, cioè, le porcate che fanno i politici. Ogni giorno me le fa sentire. Ma in base a che? In base per quello. Lei vota in base a che? Al fatto che qualcuno gli compri un giocatore di pallone? Io sono talmente disperato che ormai voto solo in base ai vantaggi effettivi che qualcuno mi ha dato. Chi è l'unico che mi ha fatto qualcosa in questi anni, che mi fa dei bei programmi in televisione senza farmi pagare il canone, che mi dà una squadra di calcio che comunque tra gli altri bassi mi dà soddisfazione? È il presidente, perché che per me sarà sempre solo presidente. È lui e basta. Vabbè, traffico. Poi, già delle cazzate che spara, ma le sparano tutti. doppie cazzate. Vabbè, ho capito, per me lei è da ricovero, però cosa vuole che le dica? Forse è più normale di altri, cioè vota in base a un interesse personale, che è quello del Milan, giusto? Sono Crosetto, che a lei piace così tanto, ma se lo vede quel pachiderma di Crosetto. Ma che vuol dire pachiderma? Da solo, ha avuto coraggio. Ma che coraggio hai avuto che sei clonato del PDL? Sei ancora dentro il PDL? Quando lei gli ha chiesto chi è il più servile, è lui il più servile di Berlusconi, altro che Bondi, è lui il più servile. E deve ammetterlo, dovrebbe avere il coraggio. Traffico, grazie. Dario, provincia di Latina, buonasera. Ho sentito prima gli insulti che tra Parenzo e l'altro si sono dati. Volevo soltanto elevare un attimo la trasmissione. Vi ricordo che i longobardi in Italia hanno lasciato tante tracce, tra cui la parola stronzo, che in longobardo si pronuncia strunz e che significa escremento. Tutto qui. E allora? No, era soltanto per spiegarvelo, perché a volte sicuramente non sapeva nemmeno che cosa significa stronzo. E volevo allora... Significa escremento? In longobardo, non mi dica che lo sapeva, perché probabilmente... Un attimo. Dettagli. Su chi è? Maurizia? Su? Sì, sei alla radio, è la Zanzara, ciao, come stai? Ciao Parenzo. Ciao Parenzo, che cosa vergognosa che è stata fatta. Allora, l'anno scorso dicono che gli ha rubato l'incasso dalla domenica, no? Tutte le ragazze dicono che non erano pagate... Ma non ho capito, scusa Maurizio, spiegami un attimo, sei accusato di aver rubato l'incasso del... No, ma figura, tu sai che i giornalisti poi ci ma che... Sono rimasta lì, sono arrivati i carabinieri e tutto, sono rimasta lì con le ragazze, con i carabinieri, le ragazze poi a un certo punto gli sono andate via, non ho preso una lira. Cioè qui l'organizzatore del Sexy Festival di Milano dice che tu hai rubato dalla cassa 1500 euro. No, i 1500 euro sono quelli che mi ha dato Rosa Rossa, il mio sponsor, per la mia prestazione di venerdì e di sabato, che poi non ce li avevo neanche in tasca io. E perché l'hai presi dalla cassa tu? Alta! A me è stato detto, vai in cassa e fatti dare i 1500 euro che ti vengono dal Misex. Chi te l'ha detto? Le ragazze erano lì tutte senza soldi, adesso ho capito perché erano tutte nuove le ragazze, perché quelle vecchie non sono state pagate neanche le altre volte, ma c'è sotto non paga. Io non ho preso i soldi neanche l'anno scorso, a marzo, non ho preso i soldi neanche... Ma chi è che organizza queste cose senza pagare? E chi le organizza è lui, no? È questo signore qua, lui e la sua tipa, la Rosalba e Alfonso. Vabbè. Alfonso Fusco si chiama. Vabbè, Maurizia, comunque. Ma perché ce ne capitano sempre, Maurizia? Perché adesso pure la denuncia di aver rubato l'incasso del Sexy Fest. Ma mettiti in mente se io mi metto a rubare gli incassi, che cazzo me ne frega a me di rubare gli incassi? Io vorrei i miei 1500 euro che mi sono trasudata, cazzo. Cioè, non ho capito. A 13 ore al giorno, addirittura, guarda, lasciavo le scarpe in giro, mi levavo le scarpe perché non riuscivo neanche più a camminare. Scusami, Maurizia, ti posso chiedere una cosa? Al di là di questa cosa che viene dopo un'altra vicenda tua, eccetera, ma tu alle elezioni chi voti? Allora te lo dico subito. Dimmi. Berlusconi. Beh, no, non lo mettiamo in dubbio, cara Maurizio. Ma perché? Ma ancora Berlusconi? Ma ti spiego perché? Perché comunque è l'unico, le promesse che ha fatto di togliere l'ICI l'ha fatto. E poi dopo ha trovato l'opposizione che gli è nato contro e hanno rimesso su questo. Ma il mondo, diciamo, il mondo del sexy. Ma io come idea, sai cosa vorrei fare? Cosa vorresti fare? Io come idea voterei Pannella, ma dare un voto a Pannella è un voto perso. Ma Pannella, vabbè, comunque. Un galantuomo e comunque, voti Berlusconi. Voti. Che mi dà fiducia anche come idea, una persona che mi sembra che dica il vero, però qui stanno uscendo un sacco di scandali ogni giorno. Bersani, a me mi sembra. Ho capito, ma allora ho capito, sei confusissima. Per chi voti? Voglio capire, per chi voterai? Per Berlusconi? Non lo so. Ma come non lo sai, Maurizio? Guarda che io 4 anni fa ho fatto un voto di protesta, 3 anni e mezzo fa, quando si è andati a votare. Ho fatto un voto di protesta. Scusami, ma il mondo del sexy, ma diciamo, il mondo dell'hard, per chi vota in massa? Berlusconi? No, secondo me il mondo dell'hard, certamente ignoranza e deficienza nel mondo dell'hard, che sono passati di volontà e soldi, magari ci vedono un secondo. Secondo me non sono neanche chi votare. No, ma in questo mondo, chi è quello che tira di più? Ma non lo so, secondo me le pornostar me l'hanno Berlusconi, perché ha avuto tutti questi casini con le sue fidanzate, roba del genere, che gli dicono è un grande, perlomeno ha avuto il coraggio di fare quello che ha fatto, roba del genere, anche se secondo me non doveva farlo, perché il presidente del Consiglio. Maurizia, comunque tu. Non può permettersi di fare delle cose così che le poteva fare di nascosto per i cavoli suoi, ma lì ragazzi, qui c'è poco da votare, ragazzi miei, ve lo dico subito. Ma la mitica segreteria, la mitica, scusa, voti un una cosa e non vanno su loro, voi ti leggono, non vanno sugli altri, ma cosa bisogna votare? Anche Grillo, poverino, che sono mesi e mesi che parla alla gente. È scatenata? Scusate, ma la tua mitica segreteria telefonica su Monti c'è ancora? Ricambiate. Ma no, se volete la faccio in questo momento, che è molto simpatica. Che no, no, no, aspetta, no, non ce la fare più, che abbiamo passato un brutto guaio. Abbiamo passato un brutto guaio. Vabbè, no, io parlavo di Monti, no, io parlavo dei Monti e delle Montagne, perché diciamo tra Monti e Colle di Fango, l'Italia sud-est si sta incazzando. Incazzati tu, che mi incazzo anch'io, ci ritroviamo nel un parapendio. Comunque, no, questa è un'altra, questa non l'ho sentita. Poi viola nuova. Maurizio, scusami un attimo, comunque io volevo. Ah, no, era quella della scorreggia. Stai tranquilla. Basta. No, volevo dirti solo questo. No, no, c'è troppo casino, dai. Maurizio, volevamo sapere come stavi dopo questa vicenda. Tutto a posto, ti ringraziamo. Insomma, mi ha rotto tutta la pelliccia, cioè sono qui. Io sono catalino, mi sono mosso da lì con i carabinieri e tutto. Vabbè, ma vediamo dopo. Ma anche i carabinieri hanno capito. Per esempio, anche l'anno scorso loro hanno detto che gli sono stati, che alla domenica gli è stata rubata una borsa. Vabbè, ma non ci andare più, no. Grazie, ti abbraccio, ciao, ciao. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Non si è capito niente. È pericolosissima la signora Paradisi. Cristian da Bergamo, buonasera Cristian. Sì, buonasera dottor Cruciani. Vada. Volevo intervenire rispetto a quello che ha detto l'onorevole Biancofiore poco fa. Io mi definisco sicuramente non uno di sinistra ma di destra, in precedenza ho anche votato Berlusconi. Allora? Però capisco essere asserviti al potere, ma non in questo modo. Cioè, c'è veramente una cosa incredibile quello che lei ha detto. Io capisco che ha parlato di promesse mantenute. Nel 2008 è salito con un governo che aveva il 50% di maggioranza e l'unica promessa che è riuscita a mantenere è quella dell'ICI. Cioè, è stata fatta sentire. Bene, la promessa, grazie, quella... grazie. Piero da Roma, buonasera, veloce, veloce. Sì, buonasera. Un consiglio innanzitutto. Sì. Non mandateli per favore tutti in ospedale, perché altrimenti qui non ci sono più letti, non c'è più posto. Rivolgetevi anche a uno scenano. Ha ragione, dobbiamo cambiare spedizioniere. Sì. Piero, però la devo ringraziare e la saluto perché abbiamo finito. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. E le coordinate giuste sono 41 gradi, 54 primi, latitudine nord, 12 gradi, 28 primi, longitudine est. È leggermente più giù di Bologna. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Grillo, vi si mangia. Radio 24. La passione si sente.